Professore, sono Cruciani, volevo chiarire, che è successo? Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La zanzara è un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì. Ma di fiori d'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo? Ma per cortesia. Noi saremo strani, saremo un po' particolari, siamo persone un po' bizzarre, sicuramente io Parenzo di meno, perché ormai è diventato una specie di uomo delle istituzioni dopo quello che ha scritto su Napolitano, cioè un uomo, come dire, tutto devoto alle istituzioni di questo paese e in particolare al Partito Democratico, però lasciamo perdere questo aspetto. Certo, certo che la gente che va a trovare la salma di Pino Daniele, va bene, ci sta, io lo trovo una cosa folle, uno che fa centinaia di chilometri per andare a vedere, per andare alla camera ardente di Pino Daniele a Roma, da Napoli, da tutta Italia, io non lo farei mai, però capisco che uno è appassionato di un uomo, vuole rendere omaggio, quello che volete, per me è una cosa fuori dal mondo. Però tu non ti puoi incazzare perché a un certo punto la famiglia, e dico la famiglia del signor Pino Daniele, deceduto 2 giorni fa, decide per qualsiasi motivo di chiudere questa camera ardente. Ora, questa camera, cioè, uno può fare quello che vuole, ma c'è gente che si incazza. C'è gente che si è incazzata, no, non si può, ci sentiamo offesi, abbiamo fatto tanti chilometri. Ma non è che la salma è vostra. Cioè, non è che il cadavere. Però è un simbolo, eh. Non è che il cadavere. Ecco la banalità di Parenzo, è un simbolo. Non è che il cadavere. No, ma più, immaginavo che tu dicessi una trottata simile. Vabbè, è senti, Davide, o si sente, oppure ti mando a fare in culo subito, eh. Allora. Il punto è molto semplice. Il cadavere, la salma non è dei fan di Pino Daniele, è della famiglia. Stai zitto perché tanto non si sente. E dunque loro possono decidere di aprire, chiudere la camera ardente quando diavolo vuole. Invece sentite le reazioni, ovviamente in napoletano, ma quello è normale perché la maggior parte dei fans che sono arrivati da varie parti d'Italia sono ovviamente napoletani. Sì, però voi potete dire che la gente non può pure arrabbiare. Ho detto. No, siamo proprio incazzati, che se vengono altra gente noi entriamo, dico, poi facete un iacchio. Se vengono 1000 persone qua non ci sta niente a fare. No, ma io non ce la vimo, comunque noi stiamo parlando con voi, ma non ce la vimo proprio comunque. Noi stiamo solo arrabbiati per la gente che viene da Napoli, che hanno sempre da 30 anni che uno conosce a suo Pino Daniele. Ancora, sentite, siamo trattati come bestie. Ma che vuol dire trattati come bestie? Sei andato lì, ma non è che hai un diritto a vedere il corpo di Pino Daniele. Sei andato lì a fare, hai voluto passare la Befana così, signore proveniente da Napoli e provincia, Caserta, non so da dove, forse da altre parti d'Italia. Sei voluto andare lì il giorno della Befana? Cazzi tuoi. Cioè, non è che poi ti trovi di fronte al fatto che la famiglia decide di chiudere Bacche e Burattini e di non esporre più la salma per qualsiasi motivo, non mi interessa, anche perché non gli va più, perché qualcuno forse ha scattato una foto, e cosa fai tu? Ti incazzi. Ma dico, ma siamo matti o no? Si dovrebbero vergognare. vergognare, perché Pino Daniele avrebbe voluto i fans lì dentro, non i politici o l'attrice di turno. No, fuori come bestie, gli unici che dovrebbero entrare sono fuori, sono qui. Nessuno viene neanche a giustificarsi, Pino Daniele non l'avrebbe voluto. Quest'altra poi, Pino Daniele non l'avrebbe voluto. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Però parliamo di un uomo che è un artista, no? Sì, e questi, ecco, qua sono, sentiamo, andati in pellegrinaggio. Sentiamo. No, ma io capisco, non sarei mai, non vado ai pellegrinaggi nelle tombe. E questo meno male, se però non quelle dei miei parenti. Se non quelle dei miei parenti, sì, ci vado, sì, anche troppo poco. Però voglio dire, siccome questa gente qui è arrivata lì apposta, c'è gente che prende il giorno di ferie addirittura per dare l'ultimo saluto a loro, allora, sino, e allora come se l'avessero conosciuto, ma cazzi loro, fino al giorno prima. Cazzi loro. Ma ho capito, ma quello è un personaggio pubblico, quindi e allora potevano tenerla aperta qualche giorno. Ma se invece in a un certo punto, ma se camera, ma scusa, ma se quelli hanno, ma se quelli hanno deciso a un certo punto la famiglia, però posso, perché farti ragionare? No, va bene. No, ma non c'è da ragionare. Come quelli che oggi hanno fischiato da lei. Adesso no, ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Ma no, sono, sono fatti della stessa pasta. Cioè, ho adesso visto il filmato oggi di questa i commenti, l'hai visto i commenti che hanno scritto? Fammi sentire un altro che era là di fronte. Vai. Che ha trovato a un certo punto la saracinesca sbarrata, non si può più entrare. No, invece c'è il diritto a vedere Pino Daniele. Vabbè, d'accordo. Fateci entrare! Dai, Enzo, fatasi un popolo! Fate entrare o popolo! Dai su, ragazzi, qualcuno dice siamo pronti a prenderle e a portarle a Napoli. Tra l'altro c'è tutta una polemica su questa vicenda qui, per il fatto che uno i funerali saranno a Roma. Perché la famiglia ha deciso così, perché non abitava più a Napoli da tanti anni. Va bene. Perché la chiesa, dicono, è più grande, ci sarà più gente, non lo so, affari loro, i funerali saranno a Roma. E sarà tumulato in Toscana. In Toscana. Fantasio popolo! Eravamo pronti una ventina di noi, andare fino a lì, prenderlo, metterlo sulle braccia e portarlo fino a qua a fargli fare un giro. Ci sarà poi l'esposizione delle ceneri, no? L'esposizione delle ceneri a Napoli nei prossimi giorni, vabbè. D'Alema, la vicenda D'Alema. D'Alema si è presentato perché gli piaceva Pino Daniele, era amico, non lo so, non mi interessa anche questo. Si è presentato e quando era tutto chiuso, no? Quando era tutto chiuso. Sì, e l'hanno, sì, fatto passare dietro. Ma ora, uno, ma non è una cosa pubblica. Cioè la famiglia. No, poi non è entrato. Ma sì, non lo so, ma la famiglia può decidere di far entrare D'Alema o di far entrare Giuseppe Cruciani. Sì, o di far entrare. Dubbio. O no! Questo, o no! Cazzo! Però scusami un attimo, vabbè, basta, fai. Dimmi. No, però voglio dire, adesso le voci di quelli che dicevano perché lui entra e noi siamo amici di Pino, e ha detto che non, per ordine pubblico non entro dentro perché altrimenti si crea un casino. Cioè, senti qua. È chiusa per tutti. Ma fanno entrare voi. Grazie D'Alema, ci fumiamo tu. Pino, se entra il signor D'Alema entriamo tutti. Ma che cazzo sì, vuol certo, dire? Perché c'è questa idea che siccome quello è un VIP. Dai, no, su, ma è una cosa patetica, dai, è una cosa patetica, dai, patetica. È veramente però una gazzarra in legna. Senti, però, scusami, stiamo parlando di Pino Daniele, non del funerale di Parenzo. Vabbè, ho capito, d'accordo. Dico di me, non di sì, te. Qualcuno dice come se fosse Bob Marley per Napoli, come se fosse Bob Marley, sì, per la stessa cosa della Giamaica. Maradona, potevo dire Maradona, ma siccome è vivo, senti D'Alema, senti D'Alema. Non ho voluto entrare per non creare confusione. È stato un po' di malumore da parte dei presenti quando non hanno visto arrivare. Perché? Pensavano magari che facessero entrare mentre gli altri restavano fuori. Ma io sono venuto perché sono amico, non ho voluto creare confusione e quindi mi sono fermato. Ti posso salutare Massimo? Ciao, arrivederci. Come va? Ma una cosa è degna, adesso io non è che sono. Non ho voluto creare confusione. Ma io non sono un fan di D'Alema, però ma è un signore che è amico, avrà chiamato qualcuno della famiglia, ha detto voglio andare a trovare, a dare un saluto alla cosa folle per me, D'Alema, che il giorno della Befana va. Però comunque vabbè, c'è gente che vuole rendere omaggio amico, alla tomba. Adesso questo voglio dire. Ma non credo che fosse amico io. Ma comunque lasciamo perdere. Se tu muori vengo anche il giorno della Befana. Ma lasciamo perdere questo aspetto, è un aspetto irrilevante. Ma possibile mai che si debba aspettare che che degli scalmanati là davanti gli rompono i coglioni. Ma è una cosa incredibile, dai, su. È una cosa pazzesca. Questo è pazzesco. Con tutto l'odio che uno può avere per la politica, per non so che cosa. No, però io capisco in questo, non capisco, capisco anche la contestazione ad Alema, vedi un po', perché quella gente là, ma tu ti rendi conto che molti di questi hanno fatto dei chilometri per andare. Ma questi sono dei malati mentali, sono dei malati mentali. Io spero che telefonino, io spero che ti telefonino e ti insultino quelli a cui stai. Ma sono dei malati, quelli che vanno, che perdono il giorno della Befana per fare 200 chilometri, andare a vedere la salma di Pino Daniele, sono dei malati mentali. Che cosa vuoi che ti dica? Ma io lo penso, sono dei malati, ma esistono, io pure sono malato mentale per altre cose. Questi sono malati mentali per questo. Scusami, e tu che vai a raccogliere gagliardetti della prima guerra mondiale alle mostre in giro per l'Italia? No, ma io non ci vado, ma questo sei impazzito, io non ci vado. Ma le mostre a vedere, come si dice, le esposizioni dei. Ma io sono andato 2-3 volte per motivi di lavoro. Qualcuno potrebbe dire che sei un. Ma io non lo so. Allora, Gad Lerner oggi ha scritto una cosa, secondo me, sbagliatissima. Su Twitter è stato accusato di antinapoletanità. Si l'hanno linciato. Benvenuto nel club, caro Gad. Benvenuto nel club. La napoletanità, scrive Lerner, tracima spesso in una retorica da cui una persona intelligente come Pino Daniele non a caso ha scelto di prendere le distanze. Poi, a parte che non si capisce un cazzo per la gente normale quello che ha scritto Pino Daniele, però comunque la cosa che scrive Lerner è che secondo lui la napoletanità trascima in una retorica da cui una persona intelligente come Daniele aveva preso le distanze, come Pino Daniele aveva preso le distanze. Non ho capito il senso, ma lui dice che si era staccato da Napoli, staccato da Napoli perché i napoletani sono troppo retorici. Vabbè. Vogliamo ricordare quello che ha detto ieri da noi su Renzi il senatore, anzi no, il cittadino pentastellato Giarrusso, cosa che ha fatto oggi il giro. Molto brutto, ho visto dappertutto, sì, giustamente lo hanno un po' ripreso, tutti, anche linciato qualcuno per questa. Cioè ieri Giarrusso ha detto che Renzi, per quello che ha fatto per questo presunto accordo con Berlusconi di una norma poi ritirata che avrebbe salvato Berlusconi, quello che sapete, per la vicenda di Courmayeur, per il Falcon, impiccato. Questo non ha lavorato mai un giorno nella sua vita, se ne va in vacanza a 9.000 euro all'ora dei nostri soldi e da là pontifica sui fannulloni della pubblica amministrazione. Cioè, se non fosse una situazione tragica, da gente da impiccare veramente, sarebbe da ridere. Impiccare. Hai presente quella cosa che si fa con un albero, una corda? Questo succederà quando la gente si arrabbierà davvero. Che cosa sei? Allora, un cretino su via mail mi scrive: fate cadere le palle, Zerbini pure con una nullità come D'Alema. Ora, non vuol dire nulla, non è che uno D'Alema lo vede e per forza debba essere impiccato. A me non piace come politico, eccetera. Ma uno può andare liberamente a trovare la salma di uno morto, magari un amico, senza essere insultato da un imbecille che sta lì di fronte? Sì o no? In questo cazzo di paese? Oh. Domenico De Masi è con noi, buonasera. Certo che ci può andare. Oh, finalmente. Finiranno per farsi per far apparire simpatico persino D'Alema. Ma caro De Masi, buonasera innanzitutto. Ma si rende conto, io lo dico anche con una certa veemenza, a modo mio, eccetera. Ma uno va lì a trovare uno, un amico morto. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio. E ci sono quattro scalmanati che vengono non so da dove. E che se entra quello, devo entrare pure io. Ma chi te l'ha detto? Sono i parenti che decidono chi entra a trovare un morto. E se ma sono amici. Quando uno è scalmanato, però non ci si può aspettare nulla. Ma lei andrebbe. E basta, è un Lei andrebbe mai a trovare, in una camera ardente a trovare Pino Daniele? No, io personalmente purtroppo non ho mai conosciuto Pino Daniele, però se l'avessi conosciuto e fossi stato amico, certo che ci sarei andato, perché sarebbe stato un dovere sia nei confronti di Pino Daniele come sia amico, nei confronti dei familiari. Certo. Ecco, ma lei un fan, uno che ama la musica di Pino Daniele, che parte da Napoli e va a trovare Pino Daniele, come lo considera? Quello è un altro paio di maniche, perché Pino Daniele era un po' diverso dagli altri artisti napoletani. Ci sono artisti grandi pure, che però non hanno carisma. Invece Pino Daniele aveva carisma. Il fatto poi che se n'era andato da Napoli creava, diciamo, un doppio legame con i napoletani, un po' di stizza e nello stesso tempo di amore. Non è paragonabile agli altri cantanti napoletani. Fece bene, una marcia in più. Ha fatto bene ad andare via da Napoli, secondo lei? Ma io pure sono andato via da Napoli, non posso assolutamente. Bisogna dire questo: a partire dagli anni 70 è nata una classe di intellettuali a Napoli, artisti, eccetera, che a differenza di quelli di prima della guerra, pensate che so, ai vari autori di canzoni napoletane eccetera, invece di dare di Napoli una immagine falsata tipo Sole mio eccetera, hanno cominciato a dare una visione veritiera di Napoli, cioè anche a criticare eccetera, ai primi film di Sorrentino, pensate al teatro, il teatro di Ruccello e così. Sì, allora Pino Daniele è uno di questi, cioè uno che ha dato di Napoli, non ha detto Sole mio, non ha detto Santa Lucia tu tieni solo un po' che male, ha detto Napoli è una carta sporca e nessuno si importa, quindi ha dato immediatamente di Napoli una visione critica, e questo naturalmente urta e fa al tempo stesso. Cioè lei vuole dire che negli ultimi anni quelli napoletani diciamo illustri, che ne so, Riccardo Muti ed altri, Riccardo Muti, Franco Rosi, sono scappati da Napoli, sono scappati. Però sono andati a Roma, che è considerato un po' un appendice di Napoli, in un'ora da Napoli. E perché sono scappati secondo lei? Ma perché Napoli è inibibile, c'è poco da fare. Per cui sta dicendo che negli ultimi 20 anni i napoletani illustri se ne sono andati via. Per vivere a Napoli bisogna avere una pazienza sovrumana, non si può vivere una sola vita a nostra disposizione in una struttura che è repellente sotto questo aspetto. E dunque fece benissimo dal suo punto di vista Pino Daniele. Precede dal fatto che oggi ovunque si sta nel mondo, ma ognuno poi va dove. Vabbè, certo. Bisogna dire che tra tutti i napoletani quello che negli ultimi 30 anni ha reso onore a Napoli forse è proprio Pino Daniele, insomma, sarà ricordato molto più lui che gli scalmanati che ora criticano tutto il resto. Devo dire che secondo me la famiglia ha fatto male a non fare i funerali a Napoli, perché la famiglia deve sapere che il grande fascino di Pino Daniele deriva da Napoli. Penso ho capito, però se uno vuole fare il funerale a Roma non è che può essere criticato. Certo. Ma qui è tutto un casino che stiamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Siamo qui anche il 6 gennaio in diretta, io in studio ovviamente a Milano, David Parenzo dalla saletta Eurostar, mi sembra, di Firenze, dunque voi grillini, gente corti, scalmanata, picchiatori violenti, chi più ne ha più ne metta, da Firenze, oppure nomadi, rom che siete alla stazione di Firenze, fissi a cercare di borseggiare qualcuno, oppure a cercare di assaltare qualche turista che fa il biglietto, eccetera, eccetera. Se, voi, te ne passo uno, guarda, se volete voi, andare a trovare voi, no, ma nel prossimo collegamento. Sì, bravo. Passo, esco dalla stazione, dalla club, se mi autorizzi, e ti passo un amico rom che prima mi stava portando via. Portando, cioè. Ma no, era, io credo, gli ho detto guarda amico, lui mi ha detto Parenzo non ruba, amico Parenzo ruba. Ma non parlano così allora rom, che dici? Comunque adesso te l'ho intervisto, se vuoi. Se siete amici di Parenzo rom, convergete lo stesso. Se siete nemici lo stesso, potete trovarlo e strapazzarlo un po'. Tanto saletta è chiuso, tanto saletta è chiuso, fanno, Eurostar di Firenze. Sono abbastanza facili nel far entrare gli amici. Sono le porte blindate. Ma quale blindate? Basta uno che. Voglio chiedere al professor De Masi una cosa: se quegli scalmanati di fuori sono tipici esponenti della napoletanità, quelli lì che lì fuori che urlavano, che hanno impedito a D'Alema di. Esatto, sono proprio la parte più visibile della napoletanità. Professore? Non c'è, professore. Ma noi napoletani abbiamo un minimo comune denominatore. Siamo un poco infantili, questo bisogna dirlo. Ognuno deve riconoscere i difetti della propria città e di se stessi. Ma perché sono infantili? Questo è quasi un mistero. Cioè sono rimasti bambini? Certo, noi napoletani abbiamo un'età psichica leggermente inferiore a quella fisica, c'è poco da fare. Cioè, lei dice che i napoletani sono non sono mai cresciuti? Sono cresciuti meno di quanto avrebbero dovuto, sia come cittadini sia come individui. Cioè hanno una specie di handicap. Non c'è dubbio. Senz'altro, una città che ha nello stesso nello stesso paese di un'altra città, con le stesse leggi, gli stessi soldi, eccetera, c'è un prodotto interno lordo che è la metà di quello di Milano, qualcosa ci sarà. Non è che, cioè nel gene, lei dice, nel gene, dice lei. No, non sto dicendo nel gene, sto dicendo nel modo con cui ci educhiamo, ci diseducchiamo. Ma lei si farebbe... Non è che nasciamo cretini o infantili. No, è che ne so. Lo diventiamo a causa della organizzazione che ci siamo data. Ma lei si farebbe tumulare a Napoli? Si farà tumulare a Napoli? A me che mi frega dove mi tumulano. Ma che ne so, perché? Ma io non so Pino Daniele, non so, le mie ceneri o il mio corpo non danno lustro a un luogo. No, ma lei se deve pensare, se ci pensa un attimo. Ci sono le coppie che danno lustro al luogo dove stanno, quello di Dante Alighieri, per esempio, si discute perché deve passare a Ravenna e non a Firenze. Ma per me nessuno mai si creerà questi problemi. D'accordo, certo, per carità, non si butti giù, però. Il mio corpo non aggiungerebbe nulla in nessun luogo. Vabbè, quello d'accordo, ma io credo che il corpo di nessuno. Un'altra cosa. Io credo il corpo di nessuno, però. Ma comunque... No, questo no. Santa Croce di Gerusalemme. Santa Croce di Firenze è grandiosa per i corpi che ci sono sepolti, insomma. Però scusi, ma alla fine lei se sono tutti uguali i cadaveri. Se può scegliere, si fa tumulare a Napoli o no? Ma non me ne frega proprio nulla. Io spero che le mie ceneri siano sparse al vento, tipo romantico, diciamo così. Non vorrei che la gente venisse, che so, anche i miei figli e i miei nipoti su una tomba a pregare per me, assolutamente no. Preferisco stare così, dovunque, nel mondo. Cioè, cremato oppure con le ceneri? Non c'è dubbio, cremato e possibilmente con le ceneri consegnate a voi perché le spargiate nell'etere. Ma addirittura, questa potrebbe essere un'idea, Parenzo, però. Carina, eh? Però non è male, cioè la zanzara diventa il luogo dove qualcuno può affidare le sue ceneri e da disperdere nell'etere. Troppo onore. No, ma lo potrei fare io quando crepo, chiederti, Parenzo, se alla radio, perché sai, saremo sempre lì. No, ma morirò prima io di te perché mi hai talmente sfrangiato gli zebedei morirò prima io. Io a te. Mi hai talmente distrutto. Fisicamente. Ma sai che sono invecchiato da quando lavoro con te di 20 anni, cazzo. Una roba incredibile, professore, guardi, dal punto di vista sociologico. Sono proprio... Ecco un rom. Aspetta. Ma che sta andando a beccare un rom lì, ma dai. Scusi, De Masi, da 1 a 10, Napoli quanto è degradata? Dici a me? Da 1 a 10, quanto è degradata Napoli? 10? Guardi, c'è una classifica che è quella solo 24 ore, che è precisa perché è fatta su 32 parametri, quindi è la più precisa delle classifiche. E Napoli è sempre all'ultimo, penultimo posto, terzultimo posto. 10 anni fa, le posso dire, era all'82esimo posto, e ora al 104esimo, mi pare. Senza speranza, lei l'ha già detto qui alla Zanzara. Non c'è niente da fare. Però scusi un attimo, professore, lo sa che per avere detto le sue stesse frasi, Leopoldo Mastelloni, qui alla Zanzara, perché noi vogliamo bene a Napoli, ma vogliamo che si risollevi, diciamo, non è che critichiamo perché siamo cattivi, e allora io dico una cosa, per le stesse frasi che lei sta dicendo qui e che ha detto già una volta, Leopoldo Mastelloni, che non abita più a Napoli come lei, che abita a Roma, è stato massacrato, cioè gli hanno fatto un mazzo così sui giornali, dappertutto, e l'hanno detto che sei... la differenza della fatta, io sono sociologo e quindi non mi conosce nessuno. Beh, aspetti, però invece no. Leopoldo Mastelloni è uno, insomma, molto amato Napoli, eccetera, e quindi il napoletano infantile, come ho detto prima, assume subito questo come un tradimento, che è una questione. Per esempio, il Napoli dice che lui è coraggioso perché resta a Napoli, e questo già dice, e invece, che a Napoli, invece? Intanto già in una città in cui bisogna avere coraggio per restare, non è una città così appetibile come ne capisce. Certo. E in secondo luogo non vedo perché, potendo fare del bene a Napoli stando lontano, devo restare a Napoli senza fare nulla. Io credo che ma a Napoli ci sono molti nulla facendo. I vari La Capria, Rosi, eccetera, da Roma hanno fatto molto molto più per Napoli che tanti napoletani che restano lì. Scusi un attimo, sa che ieri da noi il professor Luttuak ha detto che per esempio Pompei andrebbe gestita dalla Disney per risollevarla dalla catastrofe totale, dal fatto che è stata chiusa anche a Capodanno, una vergogna nazionale, bisognerebbe affidarla in blocco. Guardi che quello Luttuak non sa niente. Pompei è il sito archeologico il sito museale in Europa a meno giorni di chiusura. Beh, ok, però hanno chiuso a Capodanno, però. Sono tutti quanti, anche il Metropolitan Museum. Vabbè, ma non è vero. No. No, io secondo me a Capodanno lo farei gestire dai volontari e andrei io per prima. Appunto, appunto. Però non è il fatto che sia chiuso a Capodanno che devi. È il fatto che gestire schifo. Beh, ma anche quello, certo. Hai trovato il Rom, Parenzo? Voi dei media dovete dire la verità, dovete dire che quello è il sito meno chiuso in Italia di tutti gli altri, e non è su quello che va attaccato, perché è una bugia. Ma sarà meno chiuso perché daranno gli straordinari. Beh, no, ma va attaccato perché è gestito male. Parenzo, l'hai trovato il Rom o no? No, adesso rientro dentro il club Eurostar, perché sennò mi dici che si sente male. Allora, non voglio rotture di scatole. Antiparenziani, gente che se la vuole prendere con Parenzo, picchiatori di professione. Sì, tanto li fanno entrare, perché devi avere la tessera club d'oro. Eurostar di Firenze. Sì, devi avere gente, la tessera d'oro. Gente di passaggio, che gli vuole fare un mazzo così, che gliene vuole dire quattro. Accomodatevi, club Eurostar di Firenze. Ma tanto non li fanno entrare. Professor De Masi, l'abbraccio fortissimo, buona serata. A voi, buonasera. I said the Joker is a wanted man. It makes a way all across the land. I see him sifting through the sand. So I tell you all the story about the Joker and the thief in the night. Io detesto quasi tutto di tutto questo teatrino ignobile. Iniziate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Sono tempi duri, non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Mi piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, fa cagare. Allora, l'altro giorno è crollato un viadotto in Sicilia, no? Avete visto quelle foto clamorose su internet, soprattutto sui giornali, di un viadotto appena inaugurato e crollato. Gestito dall'ANAS. Intanto vedete quando passate sulle strade, ANAS è un ente pubblico, paghiamo l'amministratore delegato, nonché presidente, un fracco di quattrini, e va bene. Non apriamo questo capitolo di quanto sono pagati i manager pubblici in Italia rispetto ad altri paesi. Allora, la cosa incredibile è che uno vede quelle foto e dice: è crollato un viadotto, un ponte, quello che è. No, secondo il signor Ciucci, Pietro Ciucci, sì, c'è un'intervista. C'è bella, stato solo un cedimento. Un danno da poche centinaia di migliaia. A parte che centinaia di migliaia di euro di soldi nostri non sono mai pochi. No, mai pochi, non sono le mai paga pochi. L'azienda, ma l'azienda le paga lo Stato, l'ANAS è dello Stato, no, dunque li paga lo Stato. Beh, quello è un appalto che è stato dato a una cooperativa. E poi vedremo quanto pagherà. Lui ha detto siamo disposti noi cooperativa a pagare. Rossa, peraltro, cooperativa rossa. Cosa c'è? Vabbè, no, c'entra. Diciamolo che è una cooperativa rossa. Intanto l'hai buttata lì così. Ma certo, diciamolo che è una cooperativa che fa capo al mondo delle cooperative rosse. È una cooperativa famosissima che ha vinto appalti in tutta Italia. Diciamolo, ma lo vogliamo dire che è una cooperativa italiana, tra virgolette, no. Rossa? No, non lo diciamo, Ma chi dice c'è? Il contrario? Era una cooperativa, punto, è una cooperativa rossa. Il costruttore ha detto che pagherà lui il danno. Benissimo. Che la cosa e è incredibile. Se l'è presa correnti, soprattutto il costruttore lì. Sì, questo ha fatto. Per quello che ha scritto Renzi dopo. Allora, la cosa è incredibile. Ha messo fretta, ha detto. Praticamente lui l'hanno obbligato a anticipare l'apertura di questa cazzo di strada. E quindi, se ci fossero stati tempi un po' più lunghi. Non si sente una mazza. Comunque l'azienda, la CMC di Ravenna ha detto: no, ma non è crollato nulla, il viadotto è solo rototraslato. Cioè, si sono inventati questo nuovo termine, rototraslato. Andate a fare in culo, è crollato un viadotto. E siccome la roba è stata inaugurata da poco, qualcuno pagherà o no? Adesso ci saranno cause infinite, ci saranno ricorsi, ci saranno, vedrete, prima che qualcuno tiri fuori i quattrini, è più facile che li tiriamo fuori noi, c'è lo Stato. Voglio sentire subito Laura da Como però, Laura. Buonasera. Dica, Laura. Io ero intervenuta per la morte di Pino Daniele. Vai, dimmi, dai. Dico che io sono solito con Cruciani, non sono mai d'accordo, però stasera sono pienamente d'accordo, nel senso che non si può fare una piazzata come pubblico per entrare in una sala, in un obitorio, cioè o in una sala, o in una, come si dice, la camera ardente, sì. Una camera ardente, ecco, perché è assurdo che la famiglia non possa decidere come vuole, e soprattutto è assurdo che si vada come anonimo pur amando un cantante o qualsiasi persona pubblica sia, sì. È assurdo che si vada a fare una piazzata del genere. Dicano una preghiera che è molto meglio. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Le borse non recuperano il tonfo, i mercati nervosi guardano a Grecia e petrolio, greggio mai così basso da 6 anni, ma la benzina è ancora troppo cara. La norma contestata del decreto fiscale del Rio è giusta, ma pronti a ritoccarla. Forza Italia, certezze sulla legge elettorale o salta tutto. Torna l'emergenza sfratti nelle grandi città. Milano, Roma e Napoli chiedono al governo di ripristinare la proroga, 50.000 famiglie in allarme. Migliaia di fans a Roma alla camera ardente allestita per Pino Daniele. Delusione per la chiusura anticipata. Flash mob a Napoli e domani i funerali. Lettere della commissione disciplinare per 30 vigili capitolini, ma il numero potrebbe salire. Chi è sotto accusa rischia il licenziamento. In Belgio una commissione medica blocca l'iniezione letale per lo stupratore seriale che aveva chiesto l'eutanasia. Se esco, ha detto, uccido di nuovo. È trovato morto con un colpo di pistola alla testa uno dei maggiori finanzieri di Wall Street. In carcere il figlio trentenne, il padre gli voleva ridurre i soldi del mantenimento. Più ci penso e più la cosa è incredibile. Adesso stavo riguardando durante i titoli del TG3 le immagini di questo viadotto in Sicilia, no? Di questo viadotto sulla Palermo Agrigento. Allora, ci sono delle, come se fosse un terremoto, sai le classiche scene di un terremoto, no? Con le spaccature in mezzo alla strada. Sì, pazzesco, certo. È crollato un viadotto, un ponte, quello che era. Forse manco si poteva costruire lì, probabilmente. Ma sì, ma tutto quello che volete. Allora, l'azienda, la CMC di Ravenna, cooperativa, diciamolo, rossa, che cosa, come ha spiegato la cosa? Come ha detto Parenzo, quello se l'è presa con Renzi dicendo che ha messo fretta. E poi hanno detto che quel viadotto è solo rototraslato, cioè hanno utilizzato un termine tecnico, si è trattato solo di una rototraslazione. Sì. Ragazzi, ma è una cosa pazzesca. Piero da Genova, Piero. Pronto. Vai, Piero. Mi senti? Sì, da dove chiami? Da quale camion? Guarda, stavo andando in bicicletta, mi sono fermato. Vai, senti, dimmi. Senti un po', ti do del tu perché, guarda, sono condannato ad ascoltarvi. Bene, dimmi. Sono costretto proprio causa forze maggiori a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione, non posso farne meno, sono proprio condannato. Stai a sentire, innanzitutto ti dico che sono d'accordo con te sulla faccina di quelli che vanno a fare i viaggi per vedere una salma, però fatti loro, come dici sempre te, se uno sono cavoli suoi, sono cavoli ma suoi. Ma sì, ma se uno vuole andare e vuole passare il 6 gennaio a Roma a vedere la salma o il corpo di Pino Daniele, vada pure, chi se ne frega. Per me è una follia, però vada pure, però, va benissimo. Però benissimo, tutti i cavoli, se arrivi giù ti dicono il teatro chiude alle 7 e benissimo, poi vai là e il cinema, che cavolo è, chiude mezzo ho prima. Capito, quello però il cinema è un servizio, diciamo così, pubblico. Se vogliamo, è uno spettacolo. Quello hanno aperto la camera ardente. Non è che c'è scritto che la camera ardente deve essere aperta anche se uno fa le foto, anche se la famiglia a un certo punto ha un ripensamento. Lo radio. Però poi volevo dire anche due cosette. Per esempio, ora sti napoletani, vabbè, con tutto rispetto, grande Napoli, grande tutto, però sono, bisogna dire anche che però Pino Daniele se n'è andato da Napoli, questa è una cosa importante. Eh certo, ma l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto. E va benissimo, e va benissimo. Vabbè, allora? Ecco, ora, quello che io volevo dire, ecco, aggiungo due cose che forse sono anche un po' fuori, io da genovese, ma me la fai dire. E allora? Che la cara devono finire, che dico che la pizza di Napoli, la pizza di Napoli, che la pizza l'abbiamo inventata noi. Come? La pizza. Che vabbè, ma adesso scusa però Piero, per carità, tu hai detto delle parole, hai detto delle parole anche un po' anche gentili nei confronti della zanzara, che non ne puoi fare a meno. Ma adesso scusami, che cosa cazzo c'entra? Chi ha inventato la pizza? I genovesi, i napoletani, amico mio, non ci puoi sfrangiare le palle alle 19:23 con questa roba qui. Parenzo, diglielo anche tu, dai. No, mi sembra. Ma grazie, caro, grazie tesoro, mi sembra una follia. Dopodiché io non concordo con voi, ti dico di più. Dico che la famiglia, mi dispiace dover polemizzare oggi con la famiglia di Pino Daniele, ma la famiglia è Napoli, su. No, ma cosa c'entra? Pino Daniele è un simbolo per i napoletani ed è il prezzo che la famiglia deve pagare perché è un uomo molto noto, molto popolare. E molto cosa deve fare? È obbligato a fare i funerali a Napoli, secondo te? Scusa, non ho capito. Fermati, di più. Uno, siccome è un uomo molto popolare e quei fan si sentono traditi per il fatto che per te sono dei pazzi, probabilmente anche per me, però hanno fatto dei... E allora si sentono traditi per il fatto da che cosa? Dalla chiusura della camera ardente e dal fatto che i funerali si faranno al Divino Amore a Roma? Esatto. Ma quello ormai abitava a Roma da una vita, se ne fotteva un po' di Napoli, cioè se ne fotteva magari no. La famiglia, per rispetto alla storia che ha Pino Daniele e a tutti i suoi milioni di fan che hanno comprato i suoi dischi, sono andati ai suoi concerti, eccetera, i suoi fan meritavano di più. Allora, Parenzo, signori, qui siamo di fronte a una cosa incredibile. E secondo Parenzo, i familiari di... Volevo dare lezioni alla famiglia di Pino Daniele. Benissimo. Secondo Parenzo, i familiari di Pino Daniele erano obbligati a fare. Ma dillo, a fare il funerale a Napoli. Dico che hanno sbagliato e avrebbero dovuto fare hanno il sbagliato. A Napoli per rispetto alla storia. Pino Daniele non è uno qualunque, non è Bubù. Non è il signor Bubù. Vabbè, ma qualunque. Che vuol dire? È ma non è... Per Monicelli ci furono giorni e giorni di persone che vanno a dare il commiato al maestro. Allora, siccome queste sono persone molto famose che hanno vissuto grazie e sono diventate anche ricche grazie ai loro fan, grazie a chi... Tra l'altro pare che ci sarà, siccome hanno litigato all'interno della famiglia, allora, siccome hanno litigato all'interno della famiglia, pare che ci sarà un secondo funerale a Napoli nella Basilica di Santa Chiara. Vedi? Cioè che è che è la cosa peggiore però, Scusami, Daniele è diventato ricco e famoso grazie a chi? Rispondimi. No, ma grazie a Napoli, ma che vuol dire? Non vuol dire niente. No, a Napoli, grazie ai suoi fan, no a Napoli, che sono soprattutto E allora? Grazie ai suoi fan. Allora, l'ultimo grande saluto, che addirittura questi che noi possiamo considerare dei matti, indubbiamente, no? Perché anch'io non è che è una stramberia prendere il panino, andare sul trenino, perdere 6 ore, comunque, mettersi in fila per salutare l'artista. Però ci vuole rispetto per queste persone. E infatti domani ci sarà nella Basilica di Santa Chiara alle 17 un secondo funerale. Cioè fanno due funerali, uno a Roma e uno a Napoli. Umberto, provincia di Monza. Pronto? Sì, vai. Volevo parlare per Pino Daniele, ma la cosa assurda è, non lo so, io non vorrei tanto criticare, però è quello di portare una persona in quelle condizioni da non so, lì da Grosseto fino a Roma. Vabbè, ma questo ma qua è una cosa. Questo è stato detto, è stato scritto, ma che dobbiamo fare noi da qua? Giudicare come è stato curato, come non è stato curato? È sì, certo. Giudicare. Dalle ricostruzioni che abbiamo letto, che abbiamo sentito, sembra che ci sia stato un po' di leggerezza. Però scusami un attimo. Allora, perché una faccenda così è successa anche a me. Se mia moglie avrebbe ascoltato me, se avesse ascoltato, avrei fatto la fine di Pino Daniele. Cioè, ti è preso il coccolone e poi a un certo punto che è successo? È successo che mia moglie invece ha chiamato il 118 e io aspettavo 10 minuti e ero morto. Ho fatto 5 arresti cardiaci e sono stato un giorno più di là che di qua, ma se io mi avrebbe accompagnato all'ospedale o dal dottore, non sarei arrivato. Io non lo so, adesso non vorrei. Invece lei ha avuto la forza di fare cosa? Niente, mia moglie ha avuto la forza di chiamare, di alzare il telefono. Vabbè, ho capito, adesso però non possiamo stare qui a giudicare, carità, in quei momenti perché è una cosa talmente delicata che non si può stare. Però io sono rimasto, può dire cacchio, come si fa a portare da fare un'ora, due ore di viaggio a una persona in quelle condizioni? L'avrebbero intubato e basta, si sarebbe salvato. Va bene, Umberto, ciao. Pietro, Roma. Pietro, vai. Pietro, sì, dimmi, vai. Pronto? Vai, forza, sì. E niente, volevo soltanto, ho sentito Parenzo prima che sulla difesa della cooperativa rossa che ha costruito il ponte. Non ho difeso nessuna cooperativa, guarda. No, ha detto che non è importante sottolineare. No, va sottolineato. Ma è certo che va sottolineato. Ognuno si deve prendere le sue responsabilità in questo paese. Dobbiamo imparare a prendere. Perché quando ci dicono che siamo dei buffoni, è vero. L'abbiamo inventato noi l'8 settembre. Quindi chi ha costruito e chi ha. Io adesso lo metto in dubbio. Sarà stata ovviamente. La cooperativa, il progettista, chi, ma si devono prendere le proprie e vanno accertate queste proprie, perché ci facciamo ridere dietro e per incarare la dose mi sarebbe piaciuto che mentre notava sto ponte c'è stava sopra lui con la sua famiglia. Chi? Forse chi? Il signor Parenzo. Vabbè, adesso che c'entra, forse, scusa. Parenzo doveva essere sul ponte mentre crollava. Visto, sì, mentre si muoveva, mentre, visto che poi non è crollato e che quindi non ci sono stati morti, probabilmente l'avrebbe pensato in maniera differente. Quindi cominciamo a vedere le cose in maniera obiettiva. E quanto riguarda poi il discorso di. Ma lei è non posso. Scusi, Pietro, lei Parenzo. Lei è un perfetto, perché io non ho difeso nessuna cooperativa. Ho semplicemente citato l'intervista fatta al presidente della cooperativa, il quale ha detto, uno, che pagherà la sua cooperativa il danno attorno ai 100.000 euro, due, che secondo lui, quello che io non lo so se è vero, secondo lui è stata messa fretta dal presidente del Consiglio che hanno anticipato l'inaugurazione. Non ho difeso nessuno, vada a farti fottere e non auguri la morte a nessuno, ha capito? Ormai è tutto degradato. Allora, veniamo da un ascoltatore che augurava a Parenzo di essere sulla strada crollata in Sicilia, in modo da sprofondare insieme a tutta la sua famiglia. Bene. Bene niente. Vabbè, bene. Tutto bene, quel che finisce bene. Cioè, il fatto che non è successo nulla. Vabbè, uno ha chiamato perché era incazzato con te per il fatto che tu, quando io ho detto questa qua è una cooperativa di sinistra, una cooperativa cosetta rossa, non c'entra niente. Beh, una cosa malfatta, ma certo, detto, ma non c'è dubbio, però se uno lo dice non è un errore, no? Ma ieri era nostro ospite il senatore pentastellato Giarrusso, che ha attaccato Renzi in maniera leggermente esagerata, no, caro Parenzo? Dicendo che andare in vacanza con un Falcon a 9.000 euro all'ora, ed era giusto criticarlo su questo, beh, insomma, fa esasperare la gente, impiccare Renzi. Questo non ha lavorato mai un giorno nella sua vita, se ne va in vacanza a 9.000 euro all'ora dei nostri soldi e da là pontifica sui fannulloni della pubblica amministrazione. Cioè, se non fosse una situazione tragica, da gente da impiccare veramente, sarebbe da ridere. Impiccare. Hai presente quella cosa che si fa con un albero e una corda? Questo succederà quando la gente si arrabbierà davvero. Che cosa sei? E non scherzava, e non scherzava. Non si comincia a dire scherzava, qui clima goliardico, eccetera. Ma io a un certo punto gliel'abbiamo chiesto, ma scusi, senatore Giarrusso, ma impiccare? Beh sì, quella è la corda, l'albero. Renzi non ha mai lavorato, parola di Giarrusso. Uno che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, perché non mi dite che lavorare a casa del proprio padre, dove tutti sono precari tranne lui che è entrato come dirigente, cioè lui è nato già nella nursery il padre diceva, avete visto, quello è un dirigente, ma come si chiama? Ancora non lo so, ma è dirigente. No, ecco. Poi propone Lorenza Carrassarre, una giurista, e Ferdinando Imposimato, ex magistrato, cassazionista, grande dietrologo, scrive delle cose incredibili, teorie sulla morte di Moro, eccetera, eccetera, come presidente della Repubblica. Se posso fare due nomi, se posso fare due nomi che a me personalmente andrebbero bene, una donna di grande spessore, di grande valore, di grande intelligenza, che è Lorenza Carrassarre, e un uomo che ha fatto la storia di questo paese, che è Ferdinando Imposimato. Quindi si tratta di persone di grandissimo valore che hanno servito il proprio paese. Allora, mi scrive un tizio, Andrea, da Dubai, caro Parenzo. Seguo tutte le puntate della Zanzara in podcast o in streaming. Ho sentito che Parenzo è passato da queste parti. Dice, vorrei parlare dell'esperienza di uno che da 3 anni vive a Dubai, dove convivono oltre 160 razze e la delinquenza è pari a zero. Sì, peccato che diciamo l'80% delle persone sono migranti, a cui viene imposto di lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni su 7. Beh, imposto, imposto che vuol dire? Vanno lì e scelgono di lavorare in quel modo. Sono indiani e pakistani, umile e bassa, che lavora 12 ore al giorno, ripeto. E allora perché sei andato in uno stato schiavista? Perché sei andato in un posto schiavista? Sono per vedere. Beh, lo considererai una cosa da schiavismo questo, no? Lo considererai quello che succede a Dubai? È un posto schiavista sicuramente. E allora sei andato a dare quattrini a uno stato schiavista? Io guarda, andrei, se potessi andrei a vedere anche la Siria e l'Iran, per questioni religiose, come tu sai, non posso entrare in Siria e Iran. Infatti un po' mi rodo il culo lì a dare soldi ai dittatori, questo sicuro. Ma la mia curiosità a viaggiare è superiore. Sì, ma non è che la curiosità, non è che sei andato lì a divertirti, dai, scusate, alla curiosità. No, ho dai, visto un sacco di cose, cioè, te le racconti a divertirti. Sono andato a vedere la dai, città, sei andato lì, abbiamo visto con le foto mentre sciavi con la neve artificiale, il resto. Sono dai, andato su a fare anche questa esperienza qui. Quale esperienza? Sei andato a rilassarti, dai, su. Ma certo. Francesco da Matera, dai. Tu sai che io non ho vizi se non i viaggi. E anche qui ci sarebbe da discutere. Francesco da Matera. Pronto? Eccomi. Pronto, buonasera. Vai, forza. Avanti. Buonasera, ancora chiamavo buonasera. Per Pino Daniele. Sì. Allora io volevo esprimere questo concetto, essendo un fan. Sì, diciamo, abbiamo perso già 15 secondi. Sfegatato. Pino Daniele non ha la sua famiglia naturale, ma anche una famiglia, un esercito, sì, di fratelli, di cugini, di nipoti, che sono tutti quelli che lo hanno fatto diventare Pino Daniele. Esatto. E io non sono napoletano, quindi chiamo da un'altra regione, sono intriso di Pino Daniele da quando avevo 15 anni. Per cui io penso che se io ho fatto un esercizio oggi pomeriggio, mi sono collegato su Street View e sono andato a vedere i luoghi dove Pino Daniele è nato, allora? Cosa che non avevo mai fatto, e ho visto veramente il degrado, la povertà, e ho riletto nei testi delle sue canzoni il nutrimento che Pino Daniele ha preso dalla napoletanità. Quindi allora? è giusto che Napoli abbia un ruolo di primo livello in questa dipartita di Pino Daniele. Per quanto lui sia andato via da Napoli per ragioni, io credo, più che altro professionali che di circostanza. Dunque, non dico che i funerali si devono fare a Napoli. Ma infatti si faranno anche, ci saranno dei secondi, delle seconde esequie, non so in che modo, comunque domani a Roma e nel pomeriggio, domani mattina credo a Roma, e domani pomeriggio alle 17 pure a Napoli. Cioè doppi funerali. Sono convinto che si sarebbe fatto soltanto la visita al Vasco Angioino, come ha detto oggi il sindaco di Napoli. Sì, vabbè, hanno litigato insieme all'interno della famiglia. Succede quando capitano queste cose. Succede. Per cui è giusto che ai napoletani doppi a Roma e a Napoli. Bah. Come hanno fatto per Totò. Sì, erano doppi quelli di Totò? Sì, furono dopo. Vabbè. David pure lui, Terni, ciao Francesco, David buonasera, Terni. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao. No, allora io volevo affrontare un attimo il discorso del ponte. del viadotto. Allora qui siamo arrivati ad un livello pazzesco, ovvero coloro che fanno queste cooperative, in questo caso rosse, e tu fai benissimo a sottolinearlo, perché se fossero state non rosse lo avrebbero sottolineato allo stesso identico modo, quindi fai benissimo a sottolinearlo. Quindi queste cooperative, dopo che fanno questo viadotto, questo ponte fatto male, oltretutto che questo ponte crolla, perché poi è un crollo e non un roto traslato, lì com'è la storia. Sì. Lamentano anche, minacciano querele nei confronti di tutti quegli organi di stampa che, come posso dire, che riportano questi fatti realmente accaduti. Cioè è come se... Ma perché? Cosa hanno detto? Ah, perché se la sono presa con... Minacciano di querelare chi... a riportare informazioni vere, cioè è pazzesco questo. Ma dove siamo arrivati? È un crollo, la strada spezzata in due, non roto traslazione. Ma chi vogliono prendere per il culo? Dai, sono d'accordo con te, ma poi è come se io fermassi un ladro e il ladro si lamentasse della polizia che lo accusa di aver rubato, mentre invece lui si stava solamente provando un orologio al proprio polso. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo infatti tutti? Follia totale. Allora, un signore su Twitter si domanda perché Parenzo va con Gaudio in stati schiavisti senza problemi e se qualcuno va in Russia viene da lui stigmatizzato. Beh, questo pure non è una perché cosa. Perché io non sono amico di Vladimir Putin come altri amici che abbiamo intervistato alla Zanzara, vedi il signor Albano, vedi altri cantautori che pagati da sono andati. Vabbè, però l'Emiro schiavista ti fa ridere, Putin ti fa incazzare. No, non mi fa ridere. Che come no, sì, ti fa ridere l'Emiro schiavista. Per curiosità vado a vedere tutti i paesi. Non ci sono sindacati a Dubai, non esistono i sindacati. No. Ma che purtroppo, per fortuna. Purtroppo. Delle cose del mondo, per fortuna, no? Per me. Come sono curioso delle cose del mondo, sono andato a vedere Dubai per 4 giorni, che è un posto che consiglio da vedere. Sei andato a divertirti a Dubai. Paolo da Firenze, vai. A fare 4 giorni di vacanza. Paolo da Firenze. Paolo da Firenze. Se sei tanto curioso del mondo, vai in Sierra Leone, c'è l'Ebola, così poi ce la racconti invece di andare a sciare alle piscine di Dubai. Bravo. Ecco, sei tanto curioso. Io non ti auguro la morte, però nel senso sei veramente assurdo su questa cosa. Proprio eccone assurdo. Un altro. Perché che ha fatto? Spiegami. Un altro, perché è vero, perché tu che sei il PD e che lo sbandiera a 50 bandiere a più non posso e non critichi Renzi con 9.000 euro al minuto, perché non parli del Monte dei Paschi? Perché non parli di Massa Carrara degli ospedali? Perché non parli del PD di Bologna? Vabbè, su questo che c'entra, dai. Vabbè, ma non è che uno debba per forza iniziare la trasmissione elencando tutte le malefatte di gente vicina al PD o ma del PD. Ma di malefatte del PD, Cruciani? Vabbè, ma malefatte di PD. Appalate. Va bene, siamo d'accordo anche con te, però non è che uno deve iniziare la trasmissione e fare l'elenco di malefatte di persone vicine al PD o del PD stesso. Anch'io ritengo che il Monte dei Paschi abbia fatto delle malefatte assolute, certo, ma l'abbiamo anche detto, qual è il problema, non ho capito. Comunque, per concludere, io volevo soltanto dire comunque questo, hai detto basta. Una stupidaggine, perché appartiene alla cosiddetta fiera delle cazzate che è stata inaugurata oggi alla Zanzara. Sei il primo ospite della fiera delle stronzate. Prego, ma che ha detto di stronzata? Scusa, spiegami. Ma che stronzata ho detto, scusa? Ha detto, ma perché Parenzo quando apre la trasmissione? Adesso vediamo, lo faccio ogni giorno, dai. Vediamo Cruciani come la prende. Ogni giorno comincio il PD di Bologna, cosa bisogna dire del PD di Bologna? Certo, che ci sono degli inquisiti per ricevere dei rimborsi, certo. L'abbiamo detto, mi pare, l'anno scorso. Mi pare che l'anno scorso... Ma guarda che si può fare un elenco che non finisce più. Ma io ti avevo detto un'altra cosa. Ti cosa detto... vuoi da me, genio della lampada? Ti voglio semplicemente, genio della lampada, che stai dicendo un secondo fa che ti piace andare in giro per il mondo, ma ti piace andare nell'albergo... Colpa, a Dubai e non sì, a fare colpa. Un servizio in Sierra Leone dove c'è l'Ebola. All'anno potrò andare in vacanza per i cazzi miei, certo che ci può andare in vacanza, però poi dopo non stare a difendere i Rom. Ma che cosa mi rompi le palle? Io vado in vacanza dove mi pare senza chiedere permesso a te. Sì, lo sai quando deve, io chiamo da Firenze, sai quando devi andare alla stazione e non dietro le vetrate, quelle che ci possono tanto mettere la carta d'oro? Devi andare alle 11 di sera alla stazione di Firenze. Sono qui fino alle 9:20, vieni qui caro, sono qua. Vieni. Io non ho capito una cosa. Ma non devi stare lì dentro, chiuso, in difesa da tutto e da tutti. Stai fuori, dove ci sono quelli che fanno chiamano la pioggia dorata. Conosci la pioggia dorata? Ma che c'entra la pioggia dorata? Scusa adesso. Paolo, scusa. Perché ci pisciano lì. Ah, perché pisciano. Ma è un'altra cosa però quella. Ma non è un'altra cosa, è quel posto dove sei tu ora in quel momento. No, però la pioggia dorata è un'altra cosa. È un'altra cosa. Ma la pioggia dorata lo so benissimo che cos'è, ma non lo sa Parenzo che cos'è. No, lo sa, alla fine lo sa anche lui. Lo so anch'io. Lo sa, non la pratica, ma lo sa. Non la pratica, no, ma lo ecco, questo confermo. Conferma, allora. Volevo concludere dicendo una cosa che però avevo chiamato per tutto un altro motivo, ma quando sento Parenzo mi fa incazzare perché è come un'acciuga, un cervello. Ma io allora non ho capito una cosa, cosa rimproveri alla fine a Parenzo? Di essere organico del PD? Che cosa gli rimproveri? Di essere organico del PD e di avere semplicemente la mano sinistra col portafoglio a destra. Cioè, secondo te uno che è organico del PD, che ha, come dire, che dice anche che Napolitano è stato un grande presidente perché è erede del PC, eccetera, eccetera, poi non si può permettere di andare a fare lo sci artificiale a Dubai in mezzo agli emiri. No, se lo può permettere, ma si dovrebbe ascoltare le istruzioni di quello che dice quotidianamente la Zanzara. Parenzo? Ma non capisco la quale sia il problema. La contraddizione, accidenti, hai detto bene, stavi per dire bene, la contraddizione. La contraddizione, tu sei una contraddizione. Non posso andare 4 giorni a farmi una vacanza dove cazzo mi pare. Ma non è soltanto 4 giorni della vacanza dove ti pare a Dubai, Parenzo, è che prendi l'Eurostar, è che prendi i taxi, è che prendi l'Eurostar 5 stelle, è tutto quanto, è per tutto insieme. Ti piace il lusso, David, dì la verità, ti piace il lusso? Ti piace il lusso? Vivi a livelli abbastanza alti. È vero. Ho fatto un viaggio oggi, se vuoi saperlo. Ma no, ma uno se lo dice, non c'è niente di male, basta dirlo. Classe, sul treno Eurostar. Vabbè, ma quello che cosa c'è? Seconda classe Eurostar. Freccia Argento da Padova a Firenze. Adesso lo twitto, così lo vede questo idiota, se vuoi sapere cosa. Dopo ho capito. Vuoi sapere di più? Dove voglio andare quest'estate? Dove vuoi andare? Quest'estate, appena finisce la radio, io voglio andare 20 giorni, 20, senti il nome, 20 giorni in Cina. Voglio fare un viaggio in Cina di 20 giorni. Quest'estate. E in quale albergo vai in Cina? Ma te lo dico, uno dei migliori, spero. Ecco, uno dei migliori. Appunto. Allora, come dice Cristiano, dillo, mi piace il lusso. Penso, dimmi, mi piace il lusso. Ma tu vuoi sapere dove ha passato le vacanze Cruciani? Adesso twitto la foto che la ma vacanza che me ne frega come la passata Cruciani? Oh, adesso twitto la foto. Ma io mica sono contro il lusso, sei tu che sei. Mica, io non sono io non sono mai stato comunista. Ma Parenzo, hai paura di dire che ti piace il lusso? Ma no, io quando posso ma io non sono mai vacanze. Stato comunista, è diversa ma la ma neanch'io perché non c'era come più no. Ma come no, ma non dire cazzate, dai, ma su. Non c'era il PC quando vabbè, sono io, ma purtroppo. Sei stato comunista, dai, sei orgoglioso sono di stato sei della non neanche della FIGC perché non c'era più, sono stato in alcuni anni della sinistra giovanile. Parenzo, quando c'era Enrico Letta premier, tu hai fatto un collegamento qui alla Zanzara che eri accanto a lui in una riunione di Enrico Letta del partito del PD ed era premier. Ora che fai, ti discosti? Però Letta non era mai stato ti posso informare. Ragazzi, solo basta, di questo che abbiamo Letta già dato. Non è mai stato comunista. Ciao anche Paolo con... ciao sì chi era Paolo chi era sì Paolo. Io. ciao Renzi ha appena detto che Berlusconi sconterà la sua pena fino all'ultimo giorno. Che è una cosa che non vuol dire nulla, naturalmente. Però prende le distanze da quello che lui stesso. Poi bisogna vedere gli effetti, quali sarebbero stati di questa famosa norma di cui si parla da 3 giorni, eccetera. Nelle distanze da quello che lui stesso ha scritto di suo pugno, perché anche nella conferenza stampa del 24, quella del 24, Renzi disse, alcuni oggi lo ricordano, Renzi disse: io ho controllato parola per parola quello che è stato scritto in questo provvedimento. Dunque, diciamo, delle due l'una, ripeto per l'ennesima volta, o era consapevole di quello che faceva. E come dicono molti, io sono d'accordo con questa tesi, era d'accordo con Berlusconi, o comunque con uomini vicini a Berlusconi, sul fatto che questo articolo 19 avrebbe alla fine salvato o comunque accorciato. La pena, cioè l'allontanamento dalla politica per quello che riguarda Berlusconi, oppure non sapeva ed era ancora peggio. Ma abbiamo con noi l'uomo che litiga più su Twitter della politica italiana, Maurizio Gasparri, buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? Beh, almeno su Twitter ci vado direttamente. Oggi Renzi, c'è stato un giallo, sì, che è vero, ha pubblicato un Twitter che dava ragione alla Roma sul, sì, sul rigore sulla rete. Sì, sul gol, sì, sul gol. E poi dopo hanno detto che era stato un suo collaboratore, ci dà anche il nome, che aveva usato l'account, insomma il sito. Sì, questo è strano, perché noi tutti sapevamo che Renzi era uno che faceva di suo, insomma, che utilizzava... Ma poi tra l'altro, vede, mentre io non ho responsabilità molto gravi in questa fase della mia vita, se il Presidente del Consiglio vede il suo account Twitter usato da uno che minaccia qualcuno, che parla male, possono esserci delle conseguenze, cioè la comunicazione del Presidente del Consiglio non è come quella mia, sua, di altri, cioè le telefonate finte che fa lei, il Presidente del Consiglio non le può fare. Scoppierebbero delle guerre, insomma. Cioè lei sta dicendo che dovrebbe stare attento Renzi a chi usa il suo profilo Twitter. È il Presidente del Consiglio, cioè è quello che governa il paese, per cui non è una persona. No, ma infatti è strano il fatto, perché io pensavo, Parenzo, che saluta e omaggio al senatore Gasparri. Buonasera, Parenzo. Ecco. Ciao, buonasera Gasparri. Dove ha passato le vacanze, Gasparri? Facciamo a Roma, a casa, con mia moglie e mia figlia. Non è andato a Courmayeur anche lei in montagna? Non è andato a Courmayeur, no, non sono andato a Courmayeur. Non è andato in montagna, pensi ma un po'. Non ha fatto, no, perché non ha fatto neanche un giorno di... Cioè, cosa ha fatto a Roma? Niente, che ha fatto a Roma? No, ma che deve fare? Parenti, amici, sono stato con mia moglie, con mia figlia. Sono andato al cinema, sono andato a trovare dei familiari che vivono a Milano, altri che vivono in campagna. Una giornata, cose normali, insomma. No, io dico una cosa, tu immagina, Parenzo, che ieri ha difeso Renzi. Parenzo ha avuto pure il coraggio. No, perché senatore... voglio dirti, Gasparri, siccome mi stanno rompendo i coglioni da giorni, mi chiedo scusa per la parola rompere, ma mi stanno rompendo i coglioni da giorni, perché sono andato quattro giorni a Dubai, e Cruciani sta è andato a Dubai, è andato a Dubai a sciare sulla neve artificiale dall'Emiro schiavista. Quattro giorni lavorando tutto l'anno, sono andato quattro giorni e poi sono appena tornato, ero dai miei a Padova. Ma non ci sono i sindacati, tu che difendi sempre i sindacati, non ci sono i sindacati lì a Dubai. Ma io vado i paesi per curiosità, no? Per capire come sono. Sì, David, abbi pazienza, mi dai, ma a Dubai perché non può andare Parenzo a Dubai? Io sono per i diritti di Parenzo, c'è la fine. Sì, no, vabbè, è andato. Il problema è che è tornato. Cioè, l'Emiro di Dubai qualcosa poteva fare, insomma. Ma c'è, no, pure lo poteva assumere, ci sarà una radio, una televisione a Dubai, no? David, non toccare questo telefono che si sente il rumore, non è possibile. Perché fai il ritocco? Come Totò, fai il ritocco, cioè da 20 minuti che c'è sta roba qua. Ma è possibile che non hai imparato a fare la radio in tanti anni? No, senatore Gasparri, ho telefono cellulare. Ma glielo dica lei. Per cercare dei roba. No, è Parenzo, guarda, lei solo investe ancora su Parenzo in questo paese. È un uomo generoso. Cioè dice la RAI ha finito di investire, altri hanno finito. No, di... non ho detto niente. Ma come no? Sì, lo dice. Comunque, diciamo la verità. Però io quando sarò un grande produttore televisivo proporrò a Parenzo una collaborazione per compensare tutte le prese in giro che gli faccio. Però scusi un attimo, Gasparri, oggi avete avuto un bel mazzo così a Roma, rigore negato a quello. Il rigore secondo me potevano anche darlo, però il gol c'era, hanno fatto vedere in tutti i modi, nonostante ci fosse un commento ostile di un ex laziano, Gianni Marcheggiani, a Sky, c'era un ex calciatore della Lazio che ha detto per mezz'ora che il gol non c'era. Poi beh, come di un tale Marcheggiani, è stato portiere... Ma come non se lo ricorda? Non me lo ricordo, non è Zoff, insomma, voglio dire. Vabbè, ho capito, ma Marcheggiani lei lo conosce? Non è Bordone, non me lo ricordo, sinceramente. Non è passato alla storia come Zoff e Albertosi. E quindi il gol Che è successo con Marcheggiani? Che ha fatto, povero Marcheggiani? Ha fatto un commento per mezz'ora, il gol non c'è. Ora, a parte che Sky insomma dovrebbe essere un po' super partes, ma alla fine il gol era evidente, le immagini Sky lo hanno confermato. Poi è chiaro che ci vuole la tecnologia, noi stiamo ancora gestendo un business di milioni e milioni di euro, il calcio, le partite, tutti gli interessi che ci sono, con 3-4 tizi che si guardano in faccia, non sanno cosa devono fare, perché poi attualmente intorno a una partita c'è l'arbitro, due guardialine, due giudici di porta. Dunque, e lei è a favore della Moviola, mettiamo la Moviola. No, io dico che almeno intanto nelle porte un sistema tecnologico che esiste per accertare se il pallone ha suonato la linea o meno, quello si può mettere. Ma scusi, sta Sky che gli ha fatto? Adesso lei se l'è presa. No, quello faceva un commento, poveretto, ha detto mezz'ora che il gol non c'era, poi alla fine c'era un altro commentatore che non so come si chiama che cercava di far capire che il gol c'era. Poi hanno fatto vedere le immagini e alla fine ha detto dopo mezz'ora, sì, ma in effetti devo dire, cioè si vedeva. C'è una scena penosa. Sì, così come il rigore oggettivamente. Se l'arbitro lo avesse assegnato ci sarebbe stata problema, ma era assegnabile, devo dire la verità, quindi io prevedevo un esito tipo 1-1 della partita. Ecco, ma poi invece la Roma una volta tanto il gol c'era, poi è riuscito a resistere, ha avuto un po' di fortuna più sul rigore. Però mi dica la verità, Gaspari, se non succederà magari, adesso io non mi voglio mettere a fare polemica con lei essendo io come sa dall'altra sponda, però non succede, l'altra sponda nel senso non... Lei lo dice per scaramanzia. Ma durante l'anno queste cose si bilano. A parte che ripeto. Ma se dovesse accadere quello che non accadrà, dice lei, no? Lei che cosa fa? No. La Ferilli una volta disse che si spogliava nuda. No, io faccio niente, faccio festa. Guardi, nudo su Twitter, Nudo no, guardi, io già sono perseguitato da una foto che ogni tanto ripubblicano che sta sulla rete. Io con un cappellone di quelli a tuba che si mettono negli stadi con i colori di Roma, però nessuno scrive quando ripubblicano questa che è un foto. Montaggio? Che no, era il giorno dello scudetto, quindi nello stadio accadeva di tutto, no, però... si abbracciavano. A Roma poi lo scudetto, noi siamo calcisticamente poverissimi. Lo vinciamo ogni epoca proprio. Ma se succede, che fa lei? Mi rimetto il cappellone a tuba. Faccia una roba strana, nudo su lei che ormai è diventato il re di Twitter. Lei è diventato il re di Twitter. Faccia una cosa, chiudo l'account Twitter. Faccio 10.000 Twitter in un'ora a favore della Roma. Faccio un record, ecco, mi impegno. Se la Roma vince lo scudetto, in un'ora mi metto lì a twittare, a ritwittare un tweet e fare il record di tweet in un'ora. Non a chiuderlo, assolutamente no. Ma nemmeno per lo scudetto della Roma lei chiude l'account Twitter. Ma perché mi devo censurare? Tanto lo scudetto vince la Juve, stia sereno. Ha visto com'è andata Juve-Roma del resto? Vabbè, ma di nuovo su sta cosa, su, dai. No, ma io faccio parte di una generazione che ancora non si è ripresa dal gol di Turone. Cioè, per lei Juventini ladri so e ladri rimangono. No, la Juve. Diciamo che noi siamo la regione del gol di Turone, poi la Juve ha vinto in tutte le epoche, tutte le conduzioni, quindi è una squadra forte evidentemente. Però il DNA del furto ce l'hanno, secondo lei. No, non mi faccia di questo che poi si arrabbiano tutti. La Juventus ha vinto in varie epoche, qualche volta qualche vittoria è stata accompagnata da discussioni, però poi ha vinto nell'arco dei decenni. Sicuramente la squadra più titolata, la Roma, è come la squadra povera, e ogni tanto va bene, dice lo scudetto pure a noi, che a Roma poi guardi i festeggiamenti per l'ultimo. Ma non dica che è una squadra povera, è povera dal punto di vista delle povera. Sono gli americani adesso. Milan, no, vabbè, gli americani nostri, noi abbiamo importato gli unici palazzinari americani che c'erano, perché questi vogliono solo costruire lo stadio, sostanzialmente. Siamo riusciti, noi che siamo nella città dei palazzinari, Roma è la città dei palazzinari, sta dipingendo dei proprietari di Roma con dei straccioni. Ho detto che rispetto a tanti, non è che sono la Coca-Cola, la non so chi, cioè sono americani di serie B, dice lei, stanno lì che seguono le cene di Renzi, perché si è andato a pallotta alla cena di Renzi perché doveva avere lo stadio, e il consiglio comunale infatti ha votato questo stadio che non si capisce bene, a Tor di Valle se i terreni sono adatti. Io mi sono sembrati molto protesi a inseguire lo stadio, come tutti alcuni presidenti in Italia. Siamo pieni di presidenti, si stava meglio quando c'era Sensi. Sensi ha dilapidato un patrimonio di famiglia per i successi della Roma. Dobbiamo sempre essere grati alla famiglia Sensi. Sensi era un signore. Per cui si stava meglio quando c'era Sensi. Io dico che è stato un uomo generoso, è un uomo che ha dilapidato un patrimonio di famiglia per la Roma, e questo io non ricordo chi glielo voleva. Ho capito, però è meglio nel calcio. C'è chi ci entra per arricchirsi, invece Sensi fa parte di quei presidenti. Invece gli americani sono entrati per fare affari, secondo me. Non lo so, a me mi sembrano dei palazzinari. Io voglio bene all'amico Parenzo. Apriamo una parentesi prima di tornare con Gasparri. Tanto avrà qualcosa da dire anche su questo, sicuramente, perché già so che ha dato su Twitter. Io voglio bene al nostro amico il marchese là, Fulvio Abate. Cioè, gli voglio veramente molto bene. Signora... Ma si può augurargli a essere felici e gioire come ha fatto Gasparri per il licenziamento? No, ma qua a parte che non è licenziamento, ma è una collaborazione. Però aspetta. Ma ho capito, ma questo è bullismo mediatico. Ma falla finita, ma per te è tutto bullismo. Aspetta un attimo, però uno non può annunciare urbi e torbi come se fosse l'annuncio del secolo sul proprio canale YouTube, su Twitter, che l'hanno ricevuto e che vuole portare in tribunale il Fatto Quotidiano. È una cosa pazzesca. Un po' della serie sti cazzi, diciamo la verità. Amico Abate, io ti voglio bene, però sai che io non ho peli sulla lingua, non me ne frega niente, amici non amici, dico quello sempre. Ma perché, scusami? Ma dai, su, con una lettera tutta pomposa, sentiamo un po'. Beh, sente di aver subito. Sentiamo il marchese, sentiamo il marchese. Per questa ragione ho deciso di portare il Fatto Quotidiano in tribunale. Semplicemente questo. Vabbè, ma non c'è altro da dire. E allora non c'è altro, che vuol dire? Ho dalla mia la mia firma, il mio nome di scrittore, in questo caso di opinionista, e la devo difendere. E l'unica risposta a quello che ritengo un gesto inaccettabile è il tribunale. Dai, su! Si sente ma uno fa il collaboratore, quello decide di chiudere la collaborazione, è normale. E quello li porta In Italia, quando qualcuno, come dire, un imprenditore, adesso io per carità non è che sono qui dalla radio di Confindustria, devo difendere per forza gli imprenditori, quando degli imprenditori decidono di fare, dice vabbè guarda non ci servi più, ci serve un'altra persona, sembra un attentato alla Costituzione. Ma capisco, ma lui vuole portarlo in tribunale e vediamo. Ma non ho capito che cos'è che. Perché ce l'hai con Gasparri? Perché ho visto, mi sono documentato in queste ore di attesa della trasmissione, qui fermo, mi sono documentato e ho visto che Gasparri ha ingaggiato una nuova battaglia col marchese Abate, gioendo del fatto che è stato licenziato, insomma, che non gli hanno rinnovato il contratto. Voglio dire, ma un senatore della Repubblica può gioire perché un tizio perde il lavoro, sia esso il marchese Fulvio Abate, finto scrittore. Io, cioè, ma non c'è veramente null'altro da fare. A parte si faccia una sciatina sul Monte Amiata. No, in parte sono giorni di festa e non vado col volo a Courmayeur, quindi faccio risparmiare a tutti. Il Abate, io lo prendo in giro perché io non lo conoscevo Abate, l'ho incontrato in varie trasmissioni di Agora. Televisiva ad Agora. Io veramente non so chi sia Abate, io non ho mai letto un libro di Abate, è una mia ignoranza. E lo prendevo in giro perché viene in televisione con dei sandali, delle strane scarpe, un personaggio bizzarro, sembra più un ospite di Renzo Arbore che altro, no? Si ricorda quegli ospiti di Renzo Arbore da anni 80? Sì. Anche io lo prendo sempre in giro, ma sia quando lo vedo in televisione che via Twitter, sì. Per carità, è una mia lacuna. Io conosco Manzoni, Foscolo, Pavese, non conosco Parenzo, Abate. Parenzo e Lucia, che sono quindi io Abate non ho capito. Oggi gli ho scritto un tweet dicendo che scriva sui giornali, ma scrive sopra una cosa, scusa, non appena licenziato, ma è uno scherzo. Anche io vi confesso di Abate ignoro tutto, salvo che lo vedo in televisione con dei sandali e lo prendevo un po' in giro. Io ho scoperto casualmente che faceva delle critiche televisive sul Fatto, sì. E le farà dall'altra parte, le farà su un giornale più equilibrato, e quindi è uno scherzo. Quindi auguro Abate un successo tale che perfino un ignorante come me sarà costretto a sapere cosa ha scritto. Eppure comunista, si professa anche comunista. Eppure comunista, ma questo è il meno. Io, se lei mi tortura, non riuscirà a farmi dire il nome di un libro di Abate, perché io non so proprio. Io la mia casa dove sto adesso è piena di libri, di tutti i tipi, migliaia di libri. Io Abate proprio non mi è mai capitato, non lo so, mi manca. Se fosse una figurina direi mi manca. E quindi mi auguro di diventare così famoso di costringermi a a comprare un libro. Però io voglio capire una cosa. Abate dice fa causa al fatto quotidiano. Scusami, non è vero. Il più bel tweet di oggi in realtà non è neanche di Gasparri, ma è della signora Paola Ferrari, che ha detto viva la Befana, la prima MILF della storia. Questo è il tweet di oggi, il tweet di oggi più bello in sì, però torniamo ad Abate, che c'entra sta roba con Abate? Allora, no, c'entra con i tweet. No, però scusa, allora io voglio capire che cosa passa però nella testa di Gasparri, perché è geniale questa cosa qua. Abate questo, scrive questo, no, questo lo so che è difficile per chiunque, però anche quello anche ad Abate è successo. Io non lo prendo in giro, ma lui ha detto che la vuole portare da padre Amort. Ma non so chi sia padre Amort, ti ho detto di andare. È un esorcista, lui. È un esorcista, io non conosco padre Amort. No, ma credo che ci debba andare lui, che è sfortunato perché l'ha licenziato, quindi è lui che ha bisogno dell'esorcista. Poi se lei se l'è presa oggi su Twitter anche con un altro che si chiama Tancredi Palmeri, un giornalista. Ma poveretto, era uno che sembra era per una discussione sportiva. Ma come poveretto? Poi, sì, perché alcuni suoi conoscenti mi hanno inviato via Twitter dei filmati di questo personaggio che io non so chi sia sinceramente, manco lui, e che sforna. Come manco lui? Non lo so, era una discussione perché lui mi ha attaccato, il mio indirizzo era connesso, sa come funziona Twitter, se tu poi stai collegato a uno è una catena infinita, e c'era questa discussione sportiva. Ma è lei che a un certo punto ha letto una cosa e gli parte la cosa di rispondere, perché gli, a un certo punto... Perché difendevo la verità, difendevo il fatto che oggi la rete era assolutamente regolare, quindi a quelli che dicevano che la rete non c'era gli mandavo la foto tratta dai video, dalle televisioni. Cioè lei a un certo punto gli parte quasi l'embolo a lei, senatore Gasparri. Se uno dice che il gol non era regolare, siccome ci sono le immagini che dimostrano che è regolarissimo, io gli rispondo finché c'ho tempo e c'ho voglia, ma a un certo punto se c'è altro da fare non è il momento lì a rispondere. Qualcuno dice lei ha un sacco di tempo, un sacco di voglia, però, perché sta su Twitter un sacco, oppure no? Io in realtà sono molto rapido, quindi a volte sono lì 10 minuti e scarico 100 cose e poi mi occupo di altro. E poi il retweet, lei sa bene cosa vuol dire, rilanciare un messaggio. Lei sta dicendo, non è vero che sto molto... Un decimo di secondo. Per cui non è vero che sto molto tempo su Twitter invece di stare diciamo a lavorare come dicono alcuni. Molto, sono molto veloce, lavoro. sono bravo. Poi, come ho già spiegato, io sto sveglio dalle 7 della mattina alle 2 di notte, quindi vivo molto parecchio. Dalle 7 di mattina alle 2 di notte, quindi tolte 5. Quanto ore, dorme? 5? 5 ore, 19 ore. Quindi Parenzo per vivere 19 ore ci mette 4 giorni, perché dorme sempre. Quindi un giorno mio. No, vale, io purtroppo mi sveglio presto perché ho bambini piccoli, quindi mi sveglio presto. Però c'è gente che per accumulare 19 ore di esistenza ci mette 3 giorni perché dormono. Quindi dormite meno. Chi non dorme, chi dorme non piglia pesci, no? Allora, Toto Quirinale, se ci dovesse essere un accordo su Prodi, ieri per esempio io non lo voto Prodi, mai Prodi, cioè anche se Berlusconi dice c'è una, ma lo mettiamo il caso, diverso a casa, guardi, cioè Prodi nemmeno, ma io questo qua devo dire che lei ha ragione. Parenzo per esempio è un gran tifoso di Prodi, che non riesco a capire perché è uno dei migliori presidenti di sinistra, e quindi no, non è questione di sinistra, è come se io votassi, come si chiama quello, Marcheggiani, ecco, la stessa cosa. È stato uno dei migliori presidenti del Consiglio che l'Italia abbia mai avuto, su questo. Marco, ma sei pazzo, come un lui è Ciampi, lui è Ciampi, cioè tu stai, io non voterei Marco Ciampi, io Ciampi non l'ho votato ad esempio, no? Ci fu un accordo, allora c'era Alleanza Nazionale, Fini fu tra i contraenti dell'accordo su Ciampi, io non ho votato Ciampi, ho fatto bene. Bersani Ciampi lo voterebbe? Chi? No, Bersani, ma assolutamente no, non è possibile. Beltroni? Beltroni? Guardi, c'è meno peggio di Bersani, Beltroni, però mi auguro che non sia del PD il candidato. C'è un accordo su Beltroni, vabbè, è uno del PD però... Un accordo su Beltroni la vedo come estrema razza, ma francamente credo che anche a Beltroni... No, però, ma lei, Gasparri, se ci fosse un accordo su Beltroni... Candidato non del PD, perché il PD oggi ha già il Presidente del Senato, ha il Presidente del Consiglio, ho capito, sinistra, con la Boldrini c'ha la Presidenza della Camera, ma quello è il Presidente della Corte Costituzionale è di sinistra, quasi tutti i capi delle autorità varie sono di sinistra, un riequilibrio si deve cercare con uno che non è di sinistra. Scelgano loro il moderato preferito, invece che fare scegliere a noi il PD meno peggio. Ma sa, guardi che... una cosa è uno del PD, una cosa è uno esterno alla politica che può alla fine può rivelarsi per quello che vi riguarda, ragione, ma è molto più pericoloso. Sabino Cassese è uno del PD, preferirei uno del PD, però invito il PD a riflettere, hanno già un monopolio di potere, perché non invertiamo questo giochino del totale? Ma no, ma figuriamoci se loro, una rosa di moderati, ce ne sono tanti, quello che avendo loro più numeri, io questo lo capisco, loro hanno più voti e quindi appunto vabbè, però non ci possono imporre il meno peggio dei loro. C'era un Veltroni perché è un po' più slavatina, un po' più buonista, o non lo so chi, la Finocchiaro, perché in fondo la Finocchiaro lo voterebbe lei. Ma guarda, io ho buoni rapporti personali con la Finocchiaro, ciò non toglie che vabbè, non vorrei votare uno dei, cioè tra quelli del PD migliore e più votabile per lei chi è? Mattarella. Mattarella viene dalla cosa, dice Mattarella, no, è più è del PD, diciamo, viene da, sì è vero, è del PD. Cioè Mattarella lo voterebbe con turandosi il naso, oppure lo voterebbe turandosi il naso? L'ho già votato per la Corte Costituzionale quando non riusciva a raggiungere il quorum. No, il mio intervento da capogruppo all'epoca del PDL fu decisivo per far avere a Mattarella, fu eletto per un voto e quindi lo eleggemmo. Quindi, però a Mattarella è uno che gli italiani non conoscono. Però è stato ministro, un politico. C'era, ma sì, vabbè, ho capito. Quel quesito che lei si poneva giustamente, risponde positivamente. Però io invertirei, scelga la sinistra il meno lontano da loro dei nostri potenziali candidati. I 5 Stelle vogliono, ieri Giarrusso, vabbè, che ha detto che Renzi va impiccato. Sì, così ha detto, che va per quello che sta facendo dopo Courmayeur, dopo la vicenda di Berlusconi, va impiccato, dice lui, va impiccato. Vabbè, non è esagerato, lo può sfiduciare Renzi, perché è impiccato, e che ne so, dei bambini piccoli, diciamo, che ne so, così è, sa, lui è un Robespierre, è uno che pensa che Robespierre sia stato un genio, la rivoluzione francese. Giarrusso è un personaggio un po' strano, sinceramente, io ho qualche Giarrusso. Uno che dice che bisogna impiccare il Presidente del Consiglio esagera. Non solo ha detto questo, ha detto anche, e poi ha fatto i suoi nomi per il Quirinale. La Carla Sarre, una giurista, per carità, dice delle cose, cose su Berlusconi che Berlusconi non lo potrebbe nemmeno sotto tortura. È una travaglio del costituzionalismo. Una travaglia in gonnella. E poi Imposimato. Imposimato, io l'ho conosciuto Imposimato anni fa, ci impegnavamo insieme nella lotta alla droga. Poi Imposimato è uscito proprio fuori di sé, ha scritto un libro sul caso Moro, sì, in cui si è fatto ingannare da uno che si è spacciato per un altro, gli ha raccontato via mail un sacco di frottole. Poi lui ha fatto un libro che ha venduto pure un sacco di copie, pieno di falsità, di bugie. E poi la procura di Roma, pensi lei, è stata costretta ad aprire un'inchiesta su questo libro. Cioè ha perso la codenna, dice, ha fatto addirittura Palamara questa indagine, che uno che insomma non è che sia uno abbastanza vicino alla sinistra, credo. E quindi Imposimato ha fatto questo libro facendosi fregare da questo tizio che si chiamava Lato, qualcosa del genere, che gli ha raccontato tutte le storie che aveva già raccontato col suo vero nome. Vabbè, tanto è impossibile che diventi presidente. No, ma Imposimato, bisognerebbe, oggi anche su questo ho scritto un Twitter, pure. Sì, è Imposimato. Anche su questo. Se lo vede lo trova. Imposimato fa più che altro curato, cioè uno che ha fatto questo libro alla sua età facendosi ingannare. Cioè, va portato in sale. È un problema per la famiglia. Senta, delle cose flash. Intanto sta montando questa polemica su Giarrusso, sulle parole che ha detto la Zanzara ieri. Parenzo, anche ma la tua amica. Giarrusso al Senato è celebre. Perché cosa? Perché ogni tanto fa degli sternuti a 300 decibel. Come? Ogni tanto, raramente, però fa degli sternuti e c'è un attimo di panico in aula. Qualcuno pensa che sia una bomba, qualcuno si mette sotto il banco, gli attentati terroristi, il colonnello Teghero, si ricorda quello che è. Come no, in Spagna. Invece Giarrusso che fa dei mega sternuti, che è l'unica cosa per cui si è fatto notare finora in Parlamento. Allora, la Picerno ha detto se Caligola nominò senatore il suo cavallo, il non cavallo. Bisogna sorprendersi che Giarrusso sia in Senato. Beh, anche la Picerno si avvale dell'effetto Caligola. La Picerno, quando tirò fuori lo scontrino sulla spesa di 70 euro a Ballarò, c'ero io, mi diede lo scontrino, no? Poi alla fine della trasmissione l'ho voluto indietro, perché io volevo fare il controllo se era vero che si faceva, si ricorda la polemica, la spesa con 80 euro, la spesa di 2 settimane. Allora lei tirò fuori lo scontrino in televisione, c'ero io. Io poi me lo feci dare, me lo diede. Finita la trasmissione, mi ha montato un casino finché non glielo restituito. Vabbè, perché voleva, evitare il controllo. Io, ma che controllo? Voleva fare altro casino nelle trasmissioni? No, era telecamere spente. Davanti alle telecamere lo scontrino me l'ha dato. Quando le telecamere sono spente, lo ha preso. Ma per cui la Picerno, secondo lei, è come il cavallo di Caligola, anche lei? Beh, no, il somaro di Caligola. Il somaro di Caligola, addirittura. La Picerno. Ma Parenzo, difendi la tua amica, difendi la tua amica Picello, è nata come Demitiana, ha scritto insulti su Twitter contro Renzi dicendo che non capiva niente. Quello è vero. È diventata una paladina di Renzi. Renzi poi l'ha fatta capolista alle elezioni europee, la voleva candidare presidente della Campania, si è accorto dell'inconsistenza del personaggio e anche Renzi sedotta e abbandonata. No, quindi, ma non capisco questa acrimonia nei confronti della Picello. Ma perché sono critica? Evidentemente fa paura perché ha preso ma tanto. Che paura, ma che paura? Paura. Ma che paura? Abbiamo tutti la paura da Picello, che non le dico, guarda. Tra Picello e Giarrusso sto ancora qui che tre. Comunque guardi Gasparri, io penso che lei è più che occuparsi della Picello, dovrebbe occuparsi di un altro caso clamoroso. Domani spero che lo contatteremo alla Zanzara. Perché lei sa che a Treviso esiste la provincia di Treviso, che è governata da un leghista, la provincia, perché il comune c'è il PD. In provincia c'è un signore che si chiama Muraro. Muraro, sì, lo conosciamo. Muraro, sì. Il signore, ecco, cosa ha fatto lui? Ha stanziato 20.000 euro per contare le anguille. Io penso che più che parlare ho letto Picello, una cosa del genere. Ecco, ma guardi, allora, intanto c'è un precedente. Nel film Totò Truffa finisce con quello che contava i piccioni a piazza San Marco, che era interpretato da De Vico, Pietro De Vico. E poi guardi che, a parte le battute, in America quando c'è la pesca dei salmoni ci sono dei sistemi per contare quanti salmoni bisogna salvare e quanti se ne possono pescare. Può darsi che è stato in Alaska a vedere come contano i salmoni. Vabbè, è una puttanata, dai, su. Oppure ha visto il film di Totò, delle due l'una, vediamo quale va. Mi piacerebbe sentirlo questo Muraro. Una cosa, se Berlusconi avesse fatto una cosa come quella che ha fatto Renzi, cioè dire che ha controllato tutti gli articoli dei provvedimenti, poi dire invece al contrario che per carità blocchiamo tutto. Arrivava Giarrusso, lo fucilava sul serio. Cioè, a Berlusconi non gli si perdona mai nulla. Se Berlusconi facesse un decimo delle cose che fa Renzi, ma è vero che Fitto ha passato le notizie alla stampa, ha fatto uscire la storia? Credo proprio, ho letto questa cosa. Beh, anche voi vi scannate su queste robe qua. Sì, eh. Però escludo assolutamente. Insomma, senta, Monti ha detto che l'amica c'è tradimento. Monti ha detto che senza di lui Berlusconi era già al Quirinale. Purtroppo è la verità, perché lui è stato il servitore di un disegno ostile a Berlusconi in più occasioni. Un uomo presuntuoso, spero dimenticare i meriti, è un uomo presuntuoso, è il tipico intellettuale borioso pronto al tradimento, un uomo che deve a Berlusconi la sua immeritata carriera, perché Berlusconi lo nominò nel 94 commissario europeo. Berlusconi è un uomo generoso, sono talmente tanti quelli che hanno fruito della generosità di Berlusconi senza meritarla che potrebbero riempire uno stadio. E dunque Monti, quando è un personaggio arrogante, è anche uno incompetente. Io ho avuto nella mia vita vari contatti con Monti quando ero ministro, ero commissario europeo, non capiva nulla. Ero capogruppo, adesso era presidente del Consiglio, ne ho riscontrato la sostanziale incompetenza e inadeguatezza. Ma Gaspari, incompetente, è considerato professare sui temi della concorrenza, una ma come no? Guarda, sono questioni tecniche. No, per carità, per carità. So, ma quando vuole, anche privatamente o pubblicamente, io sono testimone diretto della inadeguatezza. Io una volta dovetti chiamare in causa Prodi. Ma comunque l'avete sostenuto voi? L'avete sostenuto voi? Perché abbiamo detto di sì, con troppa gioia. Io dovetti una volta ricorrere da ministro a Prodi per dirgli che il suo commissario, era presidente della Commissione europea Prodi, in quel momento Monti era assolutamente inadeguato, e devo dare atto a Prodi che in una certa vicenda la sbrogliò lui, dicendomi che cioè meglio meglio Prodi come competenze c'è piuttosto che Monti. Ma vedi che qualche cosa Prodi, di positivo in Prodi ce la trovi. Con Prodi sai di che cosa parli, Monti non capisce niente. Ti prego. Beh, questo è sempre il top, eh. Ti prego, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Il presidente dell'Ordine dei giornalisti Jacopino, ricordiamolo sempre perché sennò sembra calato così dall'alto, che durante una trasmissione alla Zanzara qualche settimana fa sulla vicenda d'Urso eccetera eccetera aveva questo intercalare, ti prego, ti prego, ti prego, tutto sempre così continuamente, ti prego. Più uno lo attaccava più uno diceva no ma scusi cioè, ma come fa a dire che la d'Urso non è, non può fare, ti prego, di pure ti prego, un po' ti smontava, devo dire la verità, è una tecnica Come che dire, un po' attaccami sì diceva, uno diceva ma no, scusi, ma che sta dicendo? Ma ti prego, dimmi, ti prego, ma ti prego cosa, Jacopì? Ti prego no, che... è un genio, è un genio. Era un genio, assoluto. Allora, faccio risentire un attimo Giarrusso, perché sta rimontando la polemica, ricordando il numero verde, 800 24 00 24, 800 24 00 24. facciamo risentire questa cosa dell'impiccagione di Giarrusso, perché ora Giarrusso è uno che dice di essere affezionato alla Rivoluzione Francese, Robespierre, le teste che rotolano, spesso ha detto bisogna chiamarci cittadini e non senatori, è uno molto duro vicino a Grillo. E poi sicuramente dirà ho scherzato, la zanzara, eccetera. Io l'ho chiesto a un certo punto, ma veramente lei vuole impiccare Renzi? Si può arrivare a questa cosa? Lui ha detto, ma sa che cos'è l'impiccagione? Quella roba lì con la corda, con l'albero, eccetera, eccetera. Questo ha detto, oh, sentiamo. Questo non ha lavorato mai un giorno nella sua vita, se ne va in vacanza, 9.000 euro all'ora dei nostri soldi, e da là pontifica sui fallulloni della pubblica amministrazione. Cioè, se non fosse una situazione tragica, da gente da impiccare veramente, sarebbe da ridere. Impiccare. Hai presente quella cosa che si fa con un albero, una corda? Questo succederà quando la gente si arrabbierà davvero. Che cosa pensi? Senatore Gasparri, la saluto, buona serata. Grazie a lei, e Giarrusso sbaglia. Beh, questo l'abbiamo già detto. Però indaghi sugli esternuti. Ma senti, ma lei pagherà, pagherà. Lei pagherebbe le due, per le due ragazze, le cooperanti in Siria? Spero che sono salve e vite. Vabbè, quello è un classico. No, io sono contro il pagamento dei riscatti in ogni caso, non solo in questo caso. I riscatti non si pagano perché, come nei rapimenti in Italia, lo Stato, gli Stati non si legano al terrorismo, quindi sono sempre stato contrario al pagamento dei riscatti. Ma le sembrano, molti dicono erano troppo vicine ad alcune organizzazioni. Beh, quello è sicuramente, ho visto e condivido le critiche, però per quanto riguarda il pagamento non è che uno paga in base al tipo di persona. Ma noi se paghiamo troppo. Assoluto. Noi sì, paghiamo troppo, credo che la storia italiana sia fatta di troppi cedimenti. Anche per paghiamo pure sui cose alla fine, paghiamo pure per i Marò. No, per i Marò dobbiamo pretendere una soluzione politica rapida. Domani su questo le prometto battaglia, perché ci siamo stufati di avere dal governo l'invito a stare buoni, zitti. Ma rapite qualche imprenditore indiano in Italia? No, però bisogna, insomma, come dire, fate un ride militare, per liberare l'area, no, che ne so. Un ride no, però c'è un ride politico, sì, perché questo governo ci ha chiesto con silenzio, con postezza, perché ci ha fatto capire che tutto si stava risolvendo. Invece sono stati degli incapaci. Vabbè, magari poi si risolve, scusi Gaspare, magari poi si risolve e Renzi si prenderà il merito, può darsi pure. Ma guardi, se risolve e si prende il merito, io sarò il primo a darglielo, ma risolvano. Invece adesso non stanno risolvendo niente. Va bene, grazie, a presto. Prego, arrivederci. Allora, domani doppi funerali, alla fine, su Pino Daniele, come Totò. Alberto, Trieste. Buonasera Cruciani, buonasera Palenzo. Vai. Una riflessione sugli 800 e passa vigili urbani che non si sono presentati al lavoro la notte di San Silvestro. Io sono rimasto più indignato dall'atteggiamento dei sindacati, che non hanno condannato. Ma non è vero, e questo non è vero. Allora decidetevi. I sindacati non è che hanno condannato, non è che non hanno condannato, Alberto. Non ovviamente non è che dicono i fannulloni, quelli che presentano i certificati falsi, sono da elogiare. Questo non lo possono dire. Dicono le solite frasi di circostanza. Cioè, bisogna verificare la regolarità dei permessi, chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. Tutte cazzate. È evidente che oltre questi 30, 44, quelli che sono vigili urbani, i quali effettivamente erano senza nulla, cioè non hanno nemmeno portato il certificato, comunque era palesemente falsa la giustificazione, oltre a questa percentuale molto bassa c'era un altro gruppo consistente di persone che, uno, hanno rifiutato la chiamata per lo straordinario, e questo è anche nel loro diritto, e altri probabilmente che hanno presentato dei certificati, come dire, compiacenti. Ma purtroppo il certificato compiacente è difficile da dimostrare, perché se il medico e il dipendente si mettono d'accordo per dire quello c'ha la febbre, quello c'ha la cagarella, quello c'ha. Ma i controlli, eh? Sì, ma come fai? Ma come fai a fare i controlli? Non ci sono. Si chiamano visite. Sì, ma. Sono figlio di mia madre, è un insegnante di scuola e mai si è presa permessi a Vanvera. Però mi ha raccontato più volte delle sue colleghe del liceo, ce n'era qualcuna che. Sì, ma è difficile arrivare. No, guarda. Vabbè, ho capito, ragazzi, i vigili urbani a Roma non li controlla nessuno, dai, su, diciamo la verità, non è che se in 500 quelli che sono, 300, 400, presentano un certificato medico o una o vogliono fare, per esempio, c'è la cosa del sangue, no? Della donazione del sangue, altra cosa assurda, per cui uno per la donazione del sangue ha diritto a non so quanti giorni, ma un giorno, ma di che, ma perché? Cioè, questo è interessante, stavo pensando anch'io, domani faccio una donazione del sangue così non mi rompi le palle. Per no, ma ti rendi, ma perché uno se dona il sangue non deve andare a lavorare? Ma è una cosa assurda, ma che vuol dire? Ma è un'altra follia italiana, uno dona il sangue e non va a lavorare, ma è una cosa pazzesca, dai, su, cioè, ma solo in Italia, beh, che stavi dicendo, Alberto? Non ho parlato di assenteismo, questi sicuramente sono in una posizione che nessuno gli può dire niente, però 83,5% mi sembra una percentuale. No, innanzitutto queste cifre sono contestate, queste cifre qua, perché è vero che mancavano tutte queste persone, però anche per una disorganizzazione totale da questo punto di vista e per un conflitto evidente, per motivi che adesso non stiamo qui a spiegare, tra i sindacati e l'amministrazione Marino. Alcuni dicono Marino li vuole fare lavorare meglio, gli vuole dare meno soldi, gli vuole far rientrare in un altro contratto, e quelli dicono no, invece perdiamo dei soldi. Insomma, c'è stato un conflitto e c'è sicuramente una gestione negativa della vicenda delle ferie. E poi scusate, ma perché con tutti i vigili urbani che ci sono, alcuni dicono in realtà che ce ne sono pochi e ce ne vorrebbero di più, e bisogna per forza pagare gli straordinari? Ci sono alcuni che hanno il turno di Capodanno, per esempio, cioè, e poi c'è un'altra considerazione, Parenzo, da fare. Mi pare che nonostante l'assenza di tutti questi vigili urbani a Roma non sia successa una mazza, nonostante tutta l'assenza di questi a Roma, non mi pare, no, che anzi, cioè non anzi, mi pare che nonostante il fatto che non ci fossero i vigili, il sì. fatto che non ci fosse tutto è andato benissimo, non c'era infatti, traffico, non è successo nulla, meglio, cioè, erano assenti, come dire, l'83% secondo le cifre che diciamo che sono state dette all'inizio dei vigili urbani di Roma, e non è successa sì. una mazza, tutto regolare, esatto, tutto regolarissimo, esatto. Questo bisognerebbe, come dire, che qualcuno ci rifletta su questa cosa qua, perché uno dice vabbè, mobilitiamo tutti i vigili urbani per la serata di Capodanno, eccetera eccetera. Poi sì, mobilitati per fare che magari? Per stare fermi agli incroci? Cioè per stare fermi magari immobili agli incroci? Allora scusa, esatto, allora statene a casa. Esatto. Domenico, provincia di Varese, dai. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Vai. Ci ho chiamato mille volte per dire cose più importanti. Ma di quello che ti pare, di quello che ti pare. Dico quello che ti pare. Quello che ti pare, sempre. Una volta. Ti faccio una domanda seria. Visto che Gasparri ha detto che praticamente Monti non è, io assolutamente non sono un montiano, però volevo sapere, ha detto che è un ignorante, non è, praticamente un ignorante, non è competente, sì. Ha detto che non è competente, che per male quello che dici tu sei un ignorante. Di cosa sarebbe competente Gasparri, me lo dite voi per favore? Io non ho mai capito che cacchio fa, a parte il politico, ha fatto politica per tutta ha fatto giornalista al Secolo d'Italia e poi politico per tutta la vita, perciò il giornalista, lui faceva il giornalista, sì, prima, sì, formalmente faceva il giornalista, sì. Di conseguenza i giornalisti sono esperti di tutte le materie e di conseguenza da poter dire che una persona che in teoria ha studiato e ha fatto mille cose molto più importanti del giornalista al Secolo è un incompetente. Io non sono un montiano, perciò sono uno per il movimento della crescita felice, perciò assolutamente contro anche il minimo idea di quello che dice Monti, ma sentire Gasparri che dice Monti è un incompetente è un'assurdità allucinante. E io vi ringrazio per lo spazio datomi e vi saluto. Ciao tesoro, Luigi Bari. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Senti, volevo dirti, è possibile che in Italia noi faremo leggi contro persona? In che senso? Ora, contro Berlusconi? Contro Berlusconi, certo. Ora, loro stessi dicono che questa legge era utilissima, perché appena è utile nei confronti di Berlusconi non si fa più sta legge. Non sei d'accordo? Ma guarda, il punto è un altro. A me non mi interessa una legge a favore di Berlusconi o contro Berlusconi. Renzi ha appena detto oggi che Berlusconi sconterà fino all'ultimo giorno. Questo dovrebbe però dirlo anche di quelli che lui vuole liberare, che di quelli che lui vuole liberare con le leggi che ha fatto approvare. Tra l'altro dice Berlusconi deve scontare fino all'ultimo giorno. Giustissimo, giustissimo. Allora anche quelli Berlusconi deve scontare fino all'ultimo giorno, gli altri no, gli altri evasori, non lo so, ora di no. No, dice noi cambiamo il fisco per gli italiani, Berlusconi sconterà la pena sino all'ultimo. Benissimo, allora non fare nulla che liberi le persone che hanno pene magari no, per la criminalità comune, eccetera, eccetera. Non è che solo Berlusconi fino all'ultimo giorno deve valere per tutti, perché per Berlusconi no, non deve valere. Ma perché adesso fa comodo dire questa cosa contro Berlusconi, capito? Da parte di Renzi. Ma non è che poi alla fine di tutta la giostra chi ne avrebbe beneficiato sarebbe stato il padre? di Renzi? Guarda, alcuni dicono che in realtà ne avrebbero approfittato di questa cosa, di questo condono sull'evasione, sulla frode fiscale, anche Passera, anche altri. È probabile che sia così, grandi imprese. Io rimango di un'idea, adesso Parenzo mi attaccherà, perché sono diventato... A me sembra un'assurdità, no, sono la norma in sé. In questi giorni ho avuto tempo di leggerla un po'. No, sono drastico, io sono... Non tanto per Berlusconi, sì. La norma in sé di mettere il tetto del 3%, mi pare una follia in sé. Non io sono drastico su io su questa cosa qua sono super drastico, cioè penso che se tu evadi, se tu evadi anche solo un euro, ovviamente la prova non può essere, cioè l'onere della prova deve essere dello Stato, in Italia non è così. Beh, certo. Allora bisogna invertire l'onere della prova, lo Stato mi deve provare che io evaso un euro, non devo essere io a produrre i documenti, lo Stato mi deve provare questa roba qua e dopo il penale, come succede in Germania, in America credo che il limite sia $10,000, e anche solo per un euro puoi essere condannato penalmente, poi la galera è un'altra cosa. Sono d'accordo. Puoi andare in galera anche per piccole cifre, perché solo se metti paura, cioè sono perché d'accordo. La legge sul fumo in Italia ha funzionato? Perché alla fine c'erano sanzioni molto forti, cioè è stato tutto molto rapido sono e drastico, esatto. Devi mettere paura, ma non con le cazzate che dici tu a Cortina, con i finanzieri a Cortina che non serve a nulla. Anche. Devi mettere paura, no, devi mettere paura con le leggi. Sono d'accordo con te su questa cosa, dai. Sono d'accordo. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Allora, c'è un tizio sulla vicenda Giarrusso su Twitter, caro Parenzo. Un tizio che si chiama Donato Vaccarelli, da Roma, Donato Vaccarelli. No, mi dice qualcosa, però devo ancora fare mente locale. Il quale scrive: ma una parola di biasimo, senti qua, una parola di biasimo su chi porge il microfono a Giarrusso, al Giarrusso di turno, su chi prospera vellicando il peggio di tutti noi, la vogliamo dire? Scrive il signor Vaccarelli, Donato Vaccarelli, che non mando a fare in culo così per una questione di decenza, perché non lo conosco, non so chi è, magari sta scherzando. Cioè, questo qua, Giarrusso dice una cosa. Se la prende con noi, perché diamo il microfono a Giarrusso, capito? Cioè, se la prende con noi questo tizio, questo signor nessuno su Twitter, che però mi ricorda qualcosa questo Vaccarelli, a prescindere dal signor nessuno, perché non è questione di nobiltà. Adesso lo googolo. Non so chi sa, un tizio su Twitter dice: ma una parola di biasimo, la vogliamo, ma che cazzo dici? Ma mi fanno incazzare queste cose, guarda, come una belva. Domani voglio parlare di questa cosa dell'ergastolano belga, questo stupratore sì, seriale. Volevo dirtelo, oltre a quello, domani contattiamo per cortesia. Sì, vabbè, adesso non è che dobbiamo annunciare Ulbi e Torbi quello che facciamo domani. Cioè, no, ma questo mi fa imbestialire, 20.000 euro per contare delle anguille ai tuoi amici della sì, Lega, 20.000 sì, euro. C'è vabbè, un'altra vicenda che è Italia paese di merda, che voglio un attimo lanciare, datemi la sigla un attimo, Italia paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Oh, ecco, l'ho trovato. Allora, secondo il quotidiano Il Messaggero, il Ministero della Difesa italiano, fonte di sprechi pazzeschi, un tempo erano degli sprechi, quando c'era la leva, non ne parliamo, adesso un po' meno, ma comunque. Per esempio, pare che il Ministero della Difesa abbia concluso l'accordo con una ditta di Firenze per l'acquisto di 2000 rotoli di panno carta. I rotoli di carta, sì, sai, sì, Parenzo? Tu lo sai questi rotoli di... Se tu vai a comprare un rotolo di carta in un supermercato... Sì, ho letto. Allora, ho 2000 rotoli a 34.300 euro. 34.300 euro. L'appalto all'inizio era di 40.983 euro. Dopo, a un certo punto, si è arrivati allo sconto di 6.000 euro. E conto finale 34.300 euro. 17 euro a rotolo. Adesso io... L'unica cosa, l'unico mio dubbio è se questo rotolo è fatto, diciamo, come se ne hai insieme 10, Cioè, se sono 10 di quelli che noi conosciamo come i rotoli, sai il rotolo della carta igienica che metti sul cesso, no? Il rotolo, come no, certo. Quello è il rotolo. Che noi compriamo a quanto? A un euro, forse meno. Diciamo. Beh, dipende, io compro quello più ruvido, quello più vabbè, ruvido. Tu sei, so che ce ne sono. Tu paghi un sacco, tu lo paghi il massimo, prendi il top, no, diciamo. Vai là e prendi quello no, più caro. Prendo il contrario, prendo quello più ruvido. No, perché tu una volta mi hai detto una cosa: quando io vado in un supermercato, quando vado da qualche parte, scelgo sempre il prodotto più caro, mi hai detto. No, ma hai detto nulla di tutto sì, questo. Sì, sì, come io. No, mi hai detto una sempre no, cosa del genere. Anzi, no, ha detto bisogna scegliere quello più caro, mi hai detto. Bisogna scegliere quello più caro. No, no, questo non l'ho mai detto. Vabbè, comunque. 17 euro a rotolo, 17 euro a rotolo. Ora, mi pare un po' tantino, 17 diciamo, euro a rotolo. Questa è la merda d'Italia. Questo è. Allora, Viviana, Roma. È giusto. Cosa? Avete detto per un'ora, paese di merda, il rotolo di carta igienica, mi pare. Beh, sì, è vero, ad hoc, ad hoc. Ecco. Allora, due cose. Se posso, ognuno può andare dove vuole quando viaggia con i suoi soldi. Però... Sta parlando di Parenzo, sì. Bravo. Con sì. Tutta la simpatia per ambedue, Dubai non è un viaggio culturale. No, infatti. Oltre... No. Beh, oddio, tutto può essere lei. Un viaggio culturale. Non è un viaggio culturale. Vabbè, in dai. Più si deve ricordare... No, non è vero, questo, io sono... questo non sono d'accordo, non sono d'accordo. No, non sono d'accordo, lo sa perché... un attimo solo, Viviana. Aspetta. Ora riproviamo tra un attimo. Allora, Viviana, che stava dicendo? Dicevo che lui non dovrebbe andare a pagare tanti soldi agli Emirati Arabi. Sì. Prima. Questa è la cosa. Io ho fatto semplicemente un viaggio. Ne vabbè, va bene in Israele a portare i soldi o in Italia, no, gli Emirati Arabi, porco cane. Sono andato. Lei è ebrea? Viviana, lei è ebrea? Io no, no. No, no, però sta dicendo, siccome lui è molto fedele alla causa dello Stato ebraico, Parenzo, sono andato, come, io come il sottoscritto. No, ma non si va, negli Emirati Arabi non si va. Però da questo punto di vista non è uno che uno ho ricevuto che... ti confesso questo, guarda, ho ricevuto da alcuni amici ebrei, qualcuno anche comune, sì sì no, ma non solo, anche quelli cioè, che mi hanno biasimato per aver fatto questa scelta di andare in un paese in un, sì. In un, a finanziare un, sì. Un paese, bravo. Che non è uno stato canaglia, ma che comunque insomma ha paraculato molti terroristi e quant'altro, e non c'è ombra di dubbio. E mi sono posto il problema, dopodiché la mia curiosità per vedere, ho detto prima che io se potessi, ma non posso perché ho il passaporto italiano e mi chiamo David e quindi non posso, ma se potessi andrei anche in Siria, che mi hanno detto che è un paese da un punto di vista geografico straordinario, io ci andrei, come vado in Cina, ma se vado e vorrei andare in Cina adesso a luglio, quando finisce la zanzara, vorrei andare a fare un viaggio in Cina, non è che per questo c'è una differenza. Allora vai in Corea del Nord con razzi, scusa, direttamente. Quello non me ne frega un cazzo di cui vedere quel paese, cioè non è tra le mie. Vabbè, ma scusa, ma ho capito. Ma la signora, adesso restiamo a quello, che ha detto la signora. La signora sta dicendo che è uno Stato che magari dà soldi ai terroristi e tu sei andato a dare soldi a un paese che magari non li dà. Soldi, ma che ne sai? È vero che ha spesso avuto non solo ambiguità, ma ad esempio ha fatto una cosa per me vergognosa, cioè quando scoppiò l'intifada fece il lutto nazionale. E dunque è chiaramente un paese vergognoso da quel punto di vista, non c'è mai di dubbio. Allora, dopodiché, signora, ha capito? Ho capito. Posto... Come un'altra cosa che non ho mai capito nella mia lunga vita, come mai gli ebrei ce l'hanno tanto con Hitler e non ce l'hanno tanto con Stalin, che ne ha ammazzati quanto Hitler. Vabbè, adesso non riapriamo. Bravo, sono d'accordo. Bravo, signor Ciao, Sebastiano. Devo dire una cosa sola. Che cosa? Che deve dire? Casini, presidente della Repubblica dei Mandrilli? No. Ma che vuol non dire? Che vuol dire? Che lui può fare solo il dandy Randy. Ma no, io capisco che i Latin lovers in Italia. Ma adesso che c'entra questo? Scusa, non è. No, ci sono tanti motivi. Ma che proprio. La destra, tanto famiglia cattolica, possa assumere o votare un Casini che è un mandrillone, non ce lo vogliamo. Perché? Noi se mi vogliamo donne, chi poi? Casini, ma presidente della Repubblica? No. Perché è un mandrillo, dice la signora. Perché è un mandrillo. Che ne sa che è un mandrillo lei, signora? Via. Lo so, lo sa pure lei. No, è perché? Non lo so, mi lo dica lei. No, non lo posso dire in pubblico. No, ma per la storia famosa della... ma è stata smentita della storia... della storia. Troppe se ne è fatte, ma troppe. Ma come troppe se ne è fatte, signora Viviana? Su, è stato presidente della Camera. Capisco che per lei sia un fatto positivo, capisco. Beh, però certo, anche devo dire la verità, potrebbe... non è per me la cosa principale, come dire, l'ostacolo maggiore al fatto che vada al Quirinale il signor Casini, per carità. Può darsi pure che in vecchiaia si sia calmato. Però lei dice l'ipocrisia da questo punto di vista, bravo, non deve essere premiata. Bravo, bravo, bravo, come sempre, bravo. Viviana, però a lei Casini piace però come persona, come uomo. Beh, se non si può dire che è brutto. No, non piace manco, no, non gli piace manco Casini. È troppo lisciato, no. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Sebastiano da Milano. Sì, eccoci, avete messo un sacco di carne al fuoco questa sera, complimenti. Vai, vai. Intanto Parenzo, allora, il tuo amico Bonifazi, il tesoriere del PD, ha detto: se sono vere le agenzie, Beppe Grillo deve chiedere scuse e prendere distanze dalle allucinanti affermazioni di Giarrusso alla Zanzara. Per Lorenza Bonaccorsi, sempre PD, il delirio forcaiolo di Grillo non ha più limiti. Mi sembra che abbiano ragione. Io non lo so, hanno ragione o no. Mi pare che Bonifazi e la Bonaccorsi hanno due cose di buon senso, cioè. Ma hanno detto che Giarrusso ha la sparata grossa. D'altra parte io non penso che Giarrusso voglia l'impiccagione. Non è che vuole l'impiccagione, no. Però devo dire la verità che Giarrusso da questo punto di vista è molto forcaiolo, cioè molto robesperiano, e se ne vanta pure. Beh, la cosa grave è che appunto questa roba qui ha legalizzato questo linguaggio pazzesco, cioè che è un... No, ma adesso che fai? Critichi il linguaggio, proprio tu critichi il linguaggio qui dall'altare della Zanzara. Posso dire che quella roba l'ha detta e lo conosciamo certamente, dico che è una puttanata mega galattica, ma una cosa anche potenzialmente violenta, quella che... o non è violenta potenzialmente? Cioè, beh, sì, non è, però voglio dire, uno che si presenta come un senatore affezionato a Robespierre, alla rivoluzione francese, alle teste che rotolano, ovviamente in questo caso non stava scherzando perché l'abbiamo sentito veramente incazzato. Ma ci sta la reprimenda, ci sta la presa di posizione di Bonifazi, della Bonaccorsi e di anche di altri, non del PD immagino, anche Gasparri stesso, che non è esattamente un irenico, un uomo di pace, un uomo che spegne incendi, no? Non mi sembra che Gasparri... Gasparri, ce lascia stare Bonifazi, d'accordo, mio amico, va benissimo, ovviamente ha detto è una follia, ovvio, ma prendiamo Gasparri, anche Gasparri, financo Gasparri. Ha detto che è una cosa... Va bene, Sebastiano da Milano, dai. Qualcuno mi scrive: il prezzo pagato dalla difesa per i rotoli di carta è troppo alto, però il panno carta non è lo Scottex, è molto più pregiato. Ignoranti, guardi, non siamo ignoranti noi, sarà più pregiato, però mi sembra che 17 euro a panno, a rotolo, mi sembra una cosa esagerata. Come sempre, quando c'è di mezzo pantalone, cioè quando c'è lo Stato che dà i quattrini, ci sono sperperi. D'altra parte, insomma, non lo stiamo, è questo che bisogna cambiare, e che Renzi non mi sembra che abbia cambiato. Dove è finita la famosa basta, non voglio più parlare. Dov'è Sebastiano? Dimmi. Pronto? Dimmi Sebastiano. Allora niente, devo dire, ma allora Eugenio Scaffari, che poco prima della fine dell'anno ha scritto su un suo articolo di fondo che gli unici coerenti in Italia sono i mafiosi. È ovvio che sia una provocazione quella del senatore pentastellato, cioè il fatto che Renzi debba essere sottoposto ad impiccagione. Diciamo che è una provocazione che però ha un fondamento su tutto. Cioè, allora, Giarrusso, è intervenuto anche il vice segretario del PD Guerini, là, il vice segretario del PD Guerini, dicendo che ecco, al termine del pomeriggio arriva la scemenza della giornata, ci ha pensato il senatore Giarrusso senza vergogna. Va bene tutto, però è evidente che il senatore Giarrusso non vuole impiccare fisicamente Renzi. Dice che dopo la vicenda di Courmayeur, con quella vergogna di 9.000 euro all'ora per il Falcon, eccetera, e dopo. Ancora costa il tuo piano. Vabbè, ma quello la pensa così, la penso anch'io così, che sia una vergogna. E dopo questo pasticcio enorme della legge salva Berlusconi, la gente dice si incazza e può arrivare. Quattro faccioni sui social network, ma di cosa stiamo parlando? È il presidente del Consiglio, è andato solo 4 giorni in vacanza. Cioè, smettiamola con la falsa retorica, ma veramente, ma proprio tu poi, è una falsa retorica e questo legittimerebbe. Fermi un tutti, senatore... professore, professore, come sta professore? Avete rubato stasera, avete rubato oggi con la Roma? Ma insomma, ogni tanto ci riesce, Ogni tanto il furto con destrezza, con destrezza. Dove è stato in vacanza il professor Taormina, altro che rompermi le palle, ha messo Dubai, dove è stato in vacanza il professore? In vacanza? Sì. Sono stato dalla Merkel. Come dalla Merkel? In Germania? Sì, sono stato in Germania, sì. Ma come? Proprio lei, grande nemico della Merkel in Germania? No, io non sono nemico della Merkel. Vabbè, quello che è. Sono vacanze lussuosissime. Dove è stato in Germania? Dove è stato? A Berlino. È stato in Germania, a Berlino, anche lei a comprare delle cose, no? A comprare qualche reliquia un albergo lussuosissimo. Qualche reliquia dei tempi che furono. No, assolutamente. Sono andato per riposo, anche se faceva un freddo infernale. In per carità. In un albergo pazzesco. Una città senza anima. Come senza anima? Che vuol dire città senza anima? Fatta solo di cemento armato e basta. Ma come cemento armato? È la città più bella d'Europa. Ma un sacco No. Ma come, professore? Ma un sacco di gente ci vuole andare ad abitare. Ma scusami, professore, ma se anche l'avvocato Trucco si è comprato una casa lì, l'avvocato Trucco. Vabbè, che c'entra adesso? Lei lo conosce? L'avvocato Trucco. È il nostro avvocato. Ma come chi è? Lei non conosce l'avvocato Trucco? Mai sentito l'avvocato Trucco. Ma come si permette? È un'offesa enorme. Ma come ognuno si permette? Ognuno ha l'avvocato che merita. Ma come l'avvocato che merita? Ma come si permette? Sta dicendo cosa incredibile. Il bisogno del Trucco. Ma che Trucco? È un grandissimo avvocato. Comunque, professore, oggi avete rubacchiato un po', diciamo la verità. Dai. Ma guardi, sul rigore probabilmente avevano ragione. Sul gol era gol, non si ombra di dubbio. Sul rigore, dubbiamente. Sempre poco problema rispetto a quello che fa la Juve. Ma non solo, ma poi. Tre ce li siamo mangiati, grosso modo, per cui insomma non abbiamo demeritato perdere, però insomma il favore arbitrale. Ora, c'era, lei è onesto, c'era. Il favore arbitrale c'era. Ma perché adesso, chi è sto Sergio da Mestre che vuole? Sergio, che vuoi Sergio? Buonasera. Dimmi. Finalmente che lo becchiamo il professor Taormina. Che ha professor fatto? Professor Taormina, lei è un umanista, che... lindo, pulito, e oggi avete rubato a man bassa. Vabbè, l'ha messo. A man bassa. Ma l'ha messo, Allora, come lo mettiamo, avvocato? Lei che è avvocato? Come la mettiamo? I ladri vanno in galera, allora tutti quanti, lei è romanista in galera, via. Ma via, che via, c'entra? Via. E poi ha il coraggio di rompere i coglioni a noi juventini. La Juventus dovrebbe, e lei è lindo, pulito. Dovrebbe essere. Senta, a parlare, aspetta, mi lascia parlare a me. Sergio, aspetta. No, guardi, non la voglio stare a sentire, guarda, non la voglio proprio stare a sentire. Ma ha ammesso che c'è, ma l'ha ammesso. Ma l'ha ammesso. È grande come una casa. Sergio, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Come se chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Vale per quelle, vale per le partite, vale per lei. Zitto un attimo. Lei è l'arbitro, vale per i disonesti siamo noi. Sergio, stai calmo. Vale per i campionati che avete rubato, vale per le partite che avete rubato anche in questo campionato. Ma siete stati in Serie B per tutte le porcherie che avete fatto tra arbitri comprati e cose varie. Ma che sta dicendo? Pronto? È un romanista lindo e pulito. Ma dai, ma io non sono. Ma dai, sono, la smetta di romperci le palle. Ma guardi, lei guardi, innanzitutto cerchi di essere. Scusi, Sergio, ha ammesso tra l'altro che rigore c'era, che vuoi di più? cerchi di essere una persona corretta. Io le sto dicendo, ma è che si lamenta sempre. Io certo che mi lamento, mi lamento quando mi devo telefono in questa trasmissione. Ma guardi che l'Italia ha capito, l'Italia si è lamentata fermo, dalla Juventus. Fermo. L'Italia si è lamentata dalla Juventus, sono una cacciata in Serie B. Perché si comprava arbitri e partite, perché utilizzava doping durante le partite, ha fatto di tutto e di più e lei sta ancora a parlare. Cerchiamo di essere sì, seri. Cerchiamo di accomodare, non è vero, ma in B ci siete stati, in B vi ci hanno mandato o non vi ci hanno mandato le autorità sportive, della giustizia sportiva? Che cosa? Ma noi quando ci manderanno in B? Quando ci manderanno in B, noi prenderemo atto che siamo in B. Intanto hanno mandato voi in B. Questa è la cosa, la solita storia, un po' di fantasia. Non solo, ma mi pare che c'è stato pure qualcuno che è stato condannato per reati che ha commesso mentre faceva il direttore di ogni volta che c'è la Taormina che parla della Roma interviene qualche ascoltatore della Juventus. Adesso non ne posso più di questa storia. Vabbè, professore, a chi lo dice? A chi lo dice? L'abbraccio, professore, l'abbraccio. Arrivederci. Ogni volta così, Parenzo, è una cosa incredibile, guarda. Incredibile. No, ma poi avvelenato era. Ma questo era avvelenato. Non riesco a capire. Ogni volta è così. Ogni santissima volta che interviene Taormina a parlare di Juventus e di Roma finisce in questo modo. Vabbè. Che dobbiamo dire in più stasera? Abbiamo detto tante cose. Che dobbiamo dire? Qualcosa in più? No, questa cosa delle anguille, condannare questa roba. Oddio, che fissazione che hai fatto, sta cosa delle anguille. Ma dai, 20.000 euro, i tuoi amici della Lega, 20.000 euro a Treviso. Ciao, per dai. Buttare le anguille. Ma che amici miei? Io non sono amico di nessuno, dai, su, ciao. Sono condannato ad ascoltarvi. Sono costretto proprio causa forza maggiore a sentire la vostra radio, la vostra trasmissione. Non posso farne meno. Sono proprio condannato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ti prego.